Allora, intanto vado. Intanto grazie a tutti di aver affrontato la calura estiva per venire. Io tengo un po', come dire, il microfono in questa sessione, quindi dico solo due parole iniziali e poi modero poi in caso ci ne sia bisogno più avanti. Innanzitutto noi ci troviamo di fronte a degli eventi inusitati, diciamo, nuovi, in un contesto vecchio. Cioè quello che succede in questo momento a confini tra l'Ucraina e la Russia, diciamo, o tra i confini, in quella regione che coinvolge entrambe, è uno scontro militare che si sviluppa con degli strumenti noti e vecchi in un contesto generale in cui si sono sviluppate tecniche, strumenti ed armi raramente usati sul terreno in questo modo. Era quindi gioco forza che come l'OST organizzassimo un incontro, un momento per capire un po' che cosa, cercare di iniziare a capire che cosa stava succedendo. A questo incontro che facciamo adesso vorrei fare due premesse e una considerazione, poi lascio la parola ai relatori. La prima premessa è questa: la guerra non è mai un caso puntuale, è una espressione, un'escrescenza purulenta di un movimento che è più lento e più grosso. E così come per la questione dello scontro militare sul campo tra Russia e Ucraina non è possibile partire dal 24 di febbraio del 2022 e forse neanche dal 2014, cioè bisogna considerare un movimento del tempo più grosso e uno spazio, diciamo così, attorno più ampio, così per l'aspetto cyberguerra non possiamo pensare di focalizzarci su questo punto qua. Noi l'abbiamo scritto nella locandina, abbiamo citato la guerra Russia-Ucraina e sicuramente verrà come argomento, ma non possiamo non considerare che il nostro ragionamento deve sapere partire prima ed andare ai bordi e guardare che cosa succede in un contesto più ampio. Quindi non guarderemo la tigre negli occhi per capire come si muove. La seconda premessa è che di cyberguerre ce ne sono tante, cioè gli strumenti cibernetici o tecnologici che sono a disposizione degli scontri in questo momento, scontri economici, scontri militari, scontri politici, sono tanti. Che vanno dal specifico del contenuto tecnologico negli strumenti di morte che i soldati utilizzano sul campo, e quindi i droni, i missili, queste cose qua, ai sistemi di comunicazione, ai sistemi di gestione dell'informazione e della propaganda, ai sistemi di, come si può dire, intrusione e, come dire, invasione del campo nemico, ai sistemi di danneggiamento delle strutture, infrastrutture economiche dell'altra parte attraverso delle intrusioni di tipo informatico. Sicuramente non tratteremo tutto questo spettro di cose, iniziamo, l'argomento è vastissimo da questo punto di vista e quindi ci concentreremo su alcuni pezzi in particolare. La considerazione che facevamo ieri, quando ci siamo incontrati a premessa di questo incontro qua per parlarne un po', era che un aspetto rilevante della cyberguerra era che accentuava questa capacità o tendenza di colpire a distanza. Questa questione del colpire a distanza, poi ne parlerà anche Dan un attimo dopo, è rilevante nel contesto in cui noi ci troviamo adesso. Un mese fa c'è stato qua un incontro sulla guerra in cui Sandro Moiso ricordava della difficoltà che gli Stati Uniti hanno avuto dopo il Vietnam a gestire dei conflitti che gli portavano dei morti in casa, perché questo naturalmente apre oppure accentua un fronte interno che un paese in guerra deve riuscire a qualche modo a gestire. Questi strumenti producono, hanno la capacità tendenzialmente di agire sulla distanza. Contemporaneamente, con questi strumenti anche il confine e risulta essere più evanescente, perché non è più quella linea fisica che è tracciata da un fiume, da un monte o da non so, un rilievo a segnare la differenza di un posto e dell'altro. E quando anche i confini diventano evanescenti, anche la misura della distanza diventa più difficile. Quindi su questo piano effettivamente la qualche cosa di un po' particolare va pensato e va capito. Basta, io finisco qua. Abbiamo adesso una breve una breve lettura di Roby, un breve Dan, dopodiché passiamo agli interventi veri, cioè quelli programmati più grossi. Blallo e Edne, nell'ordine, parleranno del fatto che non esiste più una zona sicura, e ad arrivare al fatto che in qualche modo siamo tutti quanti reclutati in questa guerra, siamo tutti quanti volenti o onorenti reclutati, che il cellulare, diciamo, è una nuova versione della leva obbligatoria. Blarlo parlerà dei lavoratori della cyber war e degli strumenti e modalità, sia in forma difensiva che in forma offensiva. E Edne parlerà di intelligenza artificiale, cibernetica e marketing. Non c'entra il marketing, però cibernetica sì, marketing e marketing. E basta, io modero, che cosa vuol dire? Loro abbiamo deciso che faranno degli interventi di una ventina, 20-30 minuti ciascuno. Cercherò che non vadano troppo forte. Chiedo a voi di non usare un linguaggio troppo difficile. E vi interverrò se mi sembra che state partendo un pochino per la tangente. Dopodiché, se ci fosse da fare un secondo giro tra loro, lo faremmo, perché può darsi che ci siano qualche osservazione che hanno da fare l'uno con l'altro. Dopodiché ci dovrebbe essere un intervento del Centro di Documentazione contro la Guerra, e poi apriamo il dibattito e la discussione a tutti. Basta. Passo la parola a Roby. Ieri sera, al termine dell'incontro preparatorio per la chiacchierata di oggi pomeriggio, mi è stato chiesto di dire alcune parole sulle guerre del passato, il colonialismo, l'imperialismo economico. Una bella rogna, considerate le poche ore a disposizione. Fortuna vuole però che stamattina io mi sia applicato su un testo destinato ad altro scopo, che però tratta degli stessi argomenti. Quindi ve ne leggo una breve parte. Si tratta del quarto paragrafo dell'editoriale della rivista I giorni e le notti, il numero 14, di prossima uscita. I compagni animatori dei giorni e le notti, oltre che essere disponibili a quest'uso, si sono dichiarati addirittura onorati del fatto. Inizia così. un fanale oscuro che getta tenebra sugli oggetti della conoscenza. Soltanto il genio di Baudelaire poteva immaginare una luce che proietta tenebra. Di che cosa parla il poeta? Parla del progresso. La macchina tecno-industriale, affinatasi negli ultimi due secoli, prosegue e amplifica la propria violenza originaria. Il suo tempo non è né omogeneo né lineare, bensì stratificato. Spesso i suoi mezzi più innovativi non scalzano quelli più arcaici, li inglobano. Nulla lo dimostra meglio del conflitto in Ucraina, il quale sembra affastellare e mettere in evidenza diverse epoche della storia del dominio. Si tratta di una guerra di materiali, ovvero sia di trincea e logoramento, che ricorda, forse come nessun altro conflitto degli ultimi decenni, la Prima Guerra Mondiale. Come mostra anche il linguaggio impiegato dagli antimilitaristi, nel quale ricorrono parole come disfattismo e diserzione. Riferite ai conflitti del passato prossimo, simili parole avevano una valenza decisamente più allusiva e meno concreta. Oggi è diverso. Circa 200.000 giovani hanno abbandonato in questi mesi la Russia per sottrarsi a un'eventuale mobilitazione generale. Uno scenario, anche questo, che fa ripiombare in pieno Novecento. Tuttavia, appena ci si alza dal campo di battaglia o si scende al di sotto, appaiono altri tempi storici. In Ucraina, oltre a gasdotti e centrali nucleari, ci sono alcuni dei maggiori depositi di plutonio e uranio arricchito al mondo. Sono la ricerca e le industrie atomiche sviluppatesi negli ultimi 70 anni ad avere trasformato questa terra in una delle aree più pericolose del pianeta. Le possibili catastrofi ambientali fanno impallidire le armi chimiche del 14-18. Per non parlare dell'impiego di armi atomiche tattiche, di cui i talk show russi parlano allegramente. Dei circa 350 laboratori di ricerca biologica duale, ovvero sia a uso civile e militare, che gli Stati Uniti hanno costruito fuori dei propri confini, una ventina sono in Ucraina. La guerra biologica, che le bio e le nanotecnologie stanno perfezionando sempre di più, sembra sopravanzare quella nucleare, senza tuttavia sostituirla, per un motivo ben preciso: con gli agenti patogeni si può lanciare il sasso e nascondere la mano. Non solo guerra sporca e ibrida, quindi, ma guerra camuffata da evento naturale, in cui virus ingegnerizzati e vaccini genetici sono prodotti negli stessi laboratori. E infatti, nei laboratori ucraini, troviamo Metabiota, un gigante biotecnologico che dichiara ufficialmente di voler rendere il mondo più resiliente alle epidemie. E Myriad Genetics, colosso dell'ingegneria genetica, che annuncia sulla propria pagina web di voler sbloccare il potere della genetica. Se ci spostiamo nei cieli ucraini, entriamo nel futuro cibernetico. Oltre ai droni killer forniti dall'ungherese Viktor Orbán, in orbita troviamo fin dall'inizio del conflitto i satelliti Starlink di Elon Musk. Per la prima volta nella storia, una corporation mette ufficialmente a disposizione di uno stato estero belligerante le proprie infrastrutture di comunicazione, che diventano così, a tutti gli effetti, armi da guerra. E grazie ai satelliti e ai terminali satellitari, dal momento che i cavi e i ripetitori delle telecomunicazioni sono stati distrutti dalle forze armate russe, che l'esercito ucraino individua gli obiettivi da colpire e trasmette i dispacci militari. E anche grazie agli informatici della SpaceX che l'esercito ucraino risponde alla cyber war russa. Ed è significativo che il Dipartimento USA, dopo aver affermato che quella di Musk era un'iniziativa privata, abbia dichiarato di recente che l'abbattimento dei suoi satelliti da parte dell'esercito russo equivarrebbe a un attacco militare agli Stati Uniti. Nella fusione tecno-militare tra imprese capitalistiche e apparati di Stato salta ogni distinzione tra collaboratore umanitario, contractor e combattente regolare. La guerra fino all'ultimo ucraino era stata già anticipata, oltre che dal lavoro dei servizi segreti statunitensi e degli addestratori della NATO, dai piani incrociati del Fondo Monetario Internazionale e delle multinazionali occidentali. Metalli, terre rare, campi agricoli, cavie per l'industria farmaceutica, uteri per la maternità surrogata, cellule staminali per la biomedicina. Un paese intero trasformato in un grande magazzino al confine tra il nuovo mondo coloniale e il mondo nuovo transumano. Nel rapporto tra innovazione tecnologica e volontà di dominio, tra profitto industriale e mitologia politica, epoche diverse si stratificano dentro lo stesso presente storico. Così i missili ipersonici russi convivono senza problemi con i riferimenti putiniani a Pietro il Grande. Mentre ammaglia in nome del futuro la tenebra del fanale oscuro a valore retroattivo. Di cosa parliamo quando parliamo di cyberguerre? È la domanda che ci siamo fatti ieri sera. Parliamo di colpire a distanza. Il discorso del colpire a distanza è strettamente legato al colonialismo, l'industrializzazione delle armi che permette di condurre un'economia di guerra a distanze sempre maggiori. Dalla scoperta, tra virgolette, termine coloniale in quanto esistevano già, delle Americhe, condotta con armi da fuoco, dunque a distanza, sconosciute ai nativi, per affermare un commercio di rapina ancora in uso, ma che oggi chiameremmo estrattivo. La mercificazione del Nuovo Mondo avviene grazie al cappello ideologico che fu fornito dalla Chiesa Cattolica nel definire le popolazioni non cattoliche come bruti o barbari e giustificandone così il genocidio oppure richiedendo una conversione. Il sistema di giustificare una guerra accusando l'altro di essere incivile è ancora oggi la base della guerra giusta. In seguito, il colpire a distanza ha fatto uso di aerei nella Seconda Guerra Mondiale e di bombe, prima stupide come quelle nucleari sganciate su Hiroshima e Nagasaki, poi sempre più intelligenti, nel senso che tendono a uccidere selettivamente i bruti, ma a preservare la proprietà privata. Fino ad arrivare ai droni pilotati, droni teleguidati, detti unmanned, senza uomo, e oggi ai droni, che sono velivoli armati, in grado di seguire ed eliminare un bersaglio in maniera autonoma, cioè senza intervento umano. Questi droni si dice che posseggono una AI, o AI, intelligenza artificiale, che dobbiamo ricordare corrisponde nel proteggere la proprietà nell'eliminare i bruti. Le ultime parole scritte da Kurz nella novella Cuore di Tenebra di Joseph Conrad sono «sterminare tutti i bruti». Quando si parla di guerra, solo la perdita del principio di universalità può creare mostri come il concetto di guerra giusta o di missione di pace. L'economia di guerra è un business che impone a tutti e a tutte di lavorarci, magari chiamando la sicurezza. E si manifesta e si rende visibile, a seconda della distanza dal centro dell'impero, anche con una progressiva militarizzazione degli spazi civili. Ricordando che una guerra è sempre contro la popolazione e che i bruti e le brute siamo noi, la popolazione non fa affari con la guerra, perché bruto è chiunque si opponga alla guerra quando la guerra è giusta, o magari santa. Ricordando le parole della guerrafondaia Margaret Thatcher, non c'è alternativa, mentre invece è ovvio che c'è sempre un'alternativa. Arrivando all'oggi, siamo di fronte a una trasformazione da un'economia sociale, ipotizzata all'inizio della pandemia con toni di solidarietà, ad un'economia di guerra. Nelle parole di Mario Draghi, bisogna scegliere tra la pace e il condizionatore. La guerra è sempre contro i poveri e oggi arriva, sovrapponendosi alla pandemia, su una popolazione affaticata e impoverita e viene trasmessa minuto per minuto come fosse una partita di calcio, rendendola spettacolare, su un dispositivo, il telefonino, che abbiamo un tempo creduto ci avrebbe liberato, mentre invece ci ha reso reperibili come un bersaglio. Quando si tratta di guerra stiamo parlando di colonialismo, di schiavitù, di estrattivismo, di egemonia culturale, di fascismo e di nazismo. Cioè non solo delle armi che vanno a permettere l'estrazione, ma anche dell'ideologia che sostiene la necessità di nuocere al proprio simile, fornendo gli strumenti per reificarlo e per non riconoscerlo come tale, addirittura impedendo di riconoscerlo come simile. Le cyberguerre sono differenti dalle normali guerre solo sul piano di un diverso contesto tecnologico interconnesso, che però non è poco. Una guerra non è mai intelligente, è la nebbia della ragione. Il nostro incontro si chiama Nebbie di guerra. Lascio la parola al nostro primo relatore, GRG. Sì. Ok, mi sentite? Sì. Okay. Allora, a me il compito di darvi un attimino lo scenario che stiamo vivendo oggi dal punto di vista informatico. Faccio questa breve introduzione per ricordarvi anche che in qualsiasi guerra il primo obiettivo, uno dei primi obiettivi quando si fa una guerra è quello di abbattere il sistema economico della vittima o della mia presunta vittima. Quindi Cosa significa abbattere il sistema economico? Principalmente, lo vedete, nella guerra tradizionale si bombardano le industrie, si distrugge l'infrastruttura, quindi le ferrovie, le comunicazioni e quant'altro. Ovviamente questo accade anche dal punto di vista informatico, dove sempre di più tutta questa infrastruttura è informatizzata e comunica e lavora dal punto di vista informatico. Quindi facciamo una breve storia di come siamo arrivati allo scenario di oggi. Se pensate con l'avvento, diciamo, della rete globale, quindi dove abbiamo interconnessioni, dove l'economia si muove con l'interconnessione, con la velocità, la prima sfida che era stata raccolta dalle varie industrie è stata quella di avere le performance, quindi la velocità della trasmissione dei dati, la capacità di avere un'infrastruttura in grado di portare i dati comunicativamente da un punto a un altro. E inizialmente quindi tutti si sono strutturati in modo tale da avere il cosiddetto data center in casa e quindi sviluppare i propri server, i propri sistemi informativi. Ovviamente controllandoli dall'inizio alla fine, quindi anche dal punto di vista del networking, quindi della comunicazione dei dati. Ditemi se dico parole che sono troppo... Ok. Questo ovviamente ha portato a uno scenario dove avevamo l'infrastruttura, tutto funzionava dal punto di vista del trasporto dell'informazione, ma ci siamo accorti che mancava un pezzo fondamentale, cioè la sicurezza. Chi controlla, come faccio a controllare che il dato vada da un punto a un altro senza che qualcuno ci metta mano? E quindi nasce uno strato di security, cosiddetto, che viene messo on top, sopra a quello del networking. Okay? Quindi vado a tamponare le falle che il sistema di comunicazione che avevo implementato andava a portare. Oggi sempre di più ovviamente diventa costoso e difficile avere una situazione di questo tipo. La situazione di questo tipo cosa significava? Che io avevo il controllo totale della mia infrastruttura e quindi una delle prime azioni di sicurezza che andavo a fare era la cosiddetta segmentazione. Segmento il mio cortile da quello che c'è fuori. Quindi quello che è qua dentro per me è conosciuto e quindi è sicuro e quindi può lavorare. Ciò che arriva da fuori o che va fuori è qualcosa che magari devo controllare, quindi chiuderò il portone, metterò una guardia a controllare chi entra e chi esce. Questo è quello che è accaduto fino agli anni 2000, diciamo così. Dal 2000 in avanti, ovviamente riuscire ad avere una situazione di questo tipo con un'interconnessione, con la capacità di mettere tutti i nuovi sistemi, quindi che nascono e che ovviamente le esigenze tecnologiche e lo sviluppo tecnologico portano, diventava sempre più costoso. E cominciamo a veder nascere i cosiddetti cloud, laddove invece di avere io l'infrastruttura che governo in casa, la demando fuori. E quindi tutto quello strato comunicativo di networking che vi raccontavo prima non è più gestito da me, ma è gestito da una terza parte che mi dà connettività, velocità e la possibilità di portare le mie applicazioni sullo strato comunicativo. Ovviamente questo porta a un nuovo paradigma, perché non ho più il mio cortile, le informazioni non stanno più all'interno del mio cortile, ma sono dislocate in giro per il mondo, non necessariamente so neanche dove siano, okay? Perché non mi compete, lo strato di trasporto del dato per me è irrilevante, è trasparente. A me serve che sia raggiungibile il mio applicativo. E questo può stare in diversi cloud, non necessariamente nello stesso cloud. Quindi io potrei avere un pezzo della mia attività che sta sul cloud A e un pezzo che sta sul cloud B. In questa situazione poi, che abbiamo visto anche recentemente, dove il telelavoro è stato per esempio sdoganato a tutti gli effetti, abbiamo persone che si collegano in termini lavorativi e quindi anche su infrastrutture critiche da dovunque, dalla macchina, dal bar, da casa, dal computer, dal telefonino. Quindi diventa sempre più difficile riuscire a dire che cosa è sicuro, quindi che cosa posso permettere, che cosa no. Quindi il paradigma che viviamo oggi dal punto di vista industriale, vivono queste situazioni, è proprio quello di dire non posso più pensare che ci sia una componente che sia sicura. Okay. Se poi pensiamo dal punto di vista della guerra, delle cyber war e quant'altro, e andiamo ad analizzare chi è che gestisce questa infrastruttura, ci accorgiamo che alla fine della fiera ci sono tre macro personaggi che gestiscono tutto questo. E lo gestiscono con un punto di osservazione molto importante, perché loro sì che hanno il controllo del networking, loro sì che sanno e possono intercettare il dato e quindi utilizzarlo poi a loro piacimento. L'esempio... Facciamo dei nomi. No. Facciamo dei nomi, mi dicono. Okay. Faccio dei nomi che probabilmente sono poco noti ai più: AWS, Amazon, Google e Microsoft con Azure. Principalmente. Ci sono anche altre realtà che però, se andiamo a indagare, alla fine della fiera affluiscono lì, quindi c'è sempre questo impatto. Tenete conto, ho sentito Facebook, ma magari dopo andiamo un pochino più nel dialogo di questo. Come dicevo, se pensate quindi al potere che ho, se avete colto quanto vi sto raccontando, cioè io Google, io Amazon, io Microsoft, che potere ho in termini di visibilità di quello che accade, di conoscenza e di capacità anche di mettere i bastoni tra le ruote, volendo. Okay? E lo paragonate per esempio all'infrastruttura telefonica, quindi se pensate oggi tutti quanti noi abbiamo in tasca un telefonino, è un telefonino che è un computer, in realtà dei fatti, che è sempre connesso a internet, sul quale utilizziamo tutta una serie di applicativi, Facebook compreso, WhatsApp e quant'altro. Vi siete accorti che quando installate qualsiasi di questi programmi dovete sottoscrivere una licenza che vi dice i dati non sono tuoi, ma sono miei. Che significa questo? Che al di là che stiamo dando le nostre informazioni, la profilazione di chi siamo, di cosa facciamo, a terze parti di cui non conosciamo esattamente neanche le facce e i nomi, diamo anche la possibilità a questi applicativi o, se andiamo a guardare ancora più in alto, ai governi, quindi a chi gestisce anche le infrastrutture di comunicative, quindi delle telecomunicazioni, di utilizzare anche i nostri apparati a loro piacimento, perché li possono controllare. E quindi è un po' come dire, Dan prima ha fatto un paragone che è molto importante, è un po' come se fossimo tutti arruolati. E quindi se io governo, piuttosto che io entità privata, perché attenzione, siamo lì come potere di intervento, posso decidere di voler attaccare uno specifico obiettivo, ho la possibilità per esempio di arruolare tutta una pletora di cellulari che controllo e utilizzarli per andare a portare un attacco che in questo caso sarebbe difficilmente anche riconoscibile, quindi imputabile a qualcuno. Questo vabbè, accade regolarmente, non è una novità dei giorni d'oggi, e quindi lo scenario, diciamo, porta queste complessità. Il paradigma che dobbiamo affrontare, dal mio punto di vista, è la difesa. Adesso magari andiamo a vedere sull'attacco come comportarsi. Dal punto di vista della difesa diventa fondamentale riuscire ad avere la visibilità di quelli che sono i miei sistemi. Quindi dovrei essere in grado di sapere dove le comunicazioni vanno, come arrivano, e quindi riuscire a controllare chi, da dove e come sta accedendo ai dati. Ovviamente diventa molto molto molto difficile riuscirla a fare, soprattutto molto costoso in determinati ambiti, perché abbiamo detto che comunque sia lo strato di comunicazione a me è invisibile, non ci posso mettere mano, e quindi quella componente lì sarà sempre aperta. Cosa posso aggiungere? Nelle campagne... Prego. No. Vai, dimmi. No, posso dire una cosa. Sì. Cioè, rispetto a quell'accenno che facevo prima sul fatto che non ci si può mai limitare a guardare la cosa al momento, cioè io mi aspetto al momento che accada qualche cosa. In realtà qualcosa sta già accadendo da tempo. Cioè non è che uno dice... dico questo perché abbiamo trovato una registrazione di un gruppo della Comunità Europea che dice in fondo noi ci aspettavamo un grosso attacco russo, non c'è stato, dopo il febbraio non c'è stato, a parte che forse c'è anche stato, c'è ma stato prima. Era interessante, esatto, esatto. Ancora una volta, perché esatto, allora prima, questo se spieghi un attimo questa cosa, come dicevo prima, anche lì prima di ogni guerra si fa l'attacco economico, prima si indebolisce gli obiettivi, si indeboliscono prima. Ad ogni modo, prima della comincio ufficiale, dell'inizio ufficiale della guerra in Ucraina, avevamo uno scenario, prima parlo 2 anni fa, okay? Avevamo uno scenario dove la maggior parte delle preoccupazioni a livello mondiale e generalizzato, ovviamente, quindi anche tocca anche noi, non solo la grande industria o specificatamente, era per esempio l'attacco di ransomware, fondamentalmente andare a chiedere riscatti. Sì, sì, spiega bene come. Andare a chiedere, a bloccare i miei servizi, quindi quelli che mi servono per lavorare, e chiedermi un riscatto se li voglio indietro. Riscatto che mediamente è $170,000, una cosa del genere. La maggior parte sono da 2-3 mila euro. Quelli che arrivano a noi sì, no, però sull'industria dove fatturano. E quello che è successo con la Lombardia Lazio, la regione Lazio, no? Per anche con la regione Sardegna ultimamente. Esatto. Okay. Questo era determinava il 96% degli attacchi fondamentalmente. Il restante sono attacchi mirati, e quindi perché voglio colpire un obiettivo specifico. Da un anno e mezzo a questa parte c'è un cambiamento molto importante, perché invece di essere ransomware, quelli gli attacchi, la maggioranza degli attacchi che vediamo, diventano wiper. Che differenza c'è? Il ransomware semplicemente mi impedisce di lavorare bloccando il mio sistema e mi chiede un riscatto. Al pagamento del riscatto io ritorno in possesso, diciamo, dei miei dati e delle mie funzioni. Il wiper invece ha lo scopo di distruggere il mio sistema. Questo significa attaccare e indebolire l'avversario. È proprio una tecnica completamente diversa. Prima monetizzavo, adesso semplicemente attacco per far male. Questo è un cambiamento che si vede molto in maniera molto importante. Se poi lo andiamo a vedere anche in termini geografici, ovviamente questi attacchi wiper ultimamente principalmente partono da paesi vicini alla Russia, non direttamente dalla Russia. Bielorussia, tutti i paesi satelliti intorno. Vogliamo aggiungere qualcosa in più? Non lo so. L'uso del cellulare come strumento di potenziamento. Non volevo entrare troppo però sul tecnico, nello spiegare come questo può avvenire. Esatto, fondamentalmente come in una guerra convenzionale, più uomini ho, più sono potente, sono in grado di fare male. Anche in questo caso, più riesco a aumentare la mia potenza di fuoco, pensate all'esempio del wiper che vi dicevo prima, non è una singola attaccante, sono tanti attaccanti che contemporaneamente provano a sfondare e a distruggere i miei sistemi. Questi poi sono, quello che vi ho citato, il wiper piuttosto che il ransomware, ripeto, sono attacchi molto generalizzati, tra virgolette. Quando parliamo invece di attacchi specifici c'è tutto uno studio, una profilazione del mio nemico per capire quali sono i punti deboli e apportare il corretto attacco. Vi faccio degli esempi perché, come dicevamo ieri sera anche tra di noi, che cercavamo di capire un pochino come spiegare questa cosa, dal punto di vista informatico ci sono 1000 modi per portare un attacco, quindi darvi un'idea non è facile, ci sono 1000 possibilità a seconda della declinazione dell'attività che io faccio, di che cosa espongo, di che cosa utilizzo, posso andare a fare più o meno male in diverse modalità. La scelta della modalità che andrò a utilizzare è semplicemente in funzione della potenza di fuoco che io ho. Ecco, no, l'ultima cosa che ti dico è che, diciamo, in questo senso qua, in questo momento effettivamente gli stati nazionali hanno aperto reclutamento su questo campo qua, cioè forse prima sotto traccia c'era lo stesso, adesso è aperto palesemente. Sì, un'altra cosa che posso dire è che fino alla fine degli anni 90 in Italia in particolar modo avevamo una cultura molto forte dal punto di vista del networking, quindi della comunicazione, di come implementare i sistemi di comunicazione, la telecomunicazione anche banalmente, siamo stati sempre stati molto avanti e pionieri su determinate cose. Dal punto di vista della sicurezza invece siamo molto indietro. E a tutt'oggi mi capita di trovarmi in situazioni dove ti aspetti di trovare un interlocutore con una certa preparazione e questo non accade. Recentemente, mi sembra che sia notizia di una settimana fa, a Casoria è stato aperto il reclutamento di persone che siano in grado di lavorare sulla cyber security dal punto di vista governativo, quindi per lo Stato, per il governo. Mi risulta che hanno grosse difficoltà a trovare... Esattamente, se guardo il settore privato, guardo Google, guardo Amazon, quanto mi paga rispetto a... Ecco, ora forse possiamo... Vai. Il tempo sei stato perfetto, Blando, poi vai. E io mi attacco al discorso che si è appena concluso, provando a portarvi una testimonianza di come funziona l'economia, diciamo il mercato del lavoro di questa roba qui, perché io ho lavorato e lavoro tuttora in questo settore qui. Io ho iniziato a lavorare come, diciamo, da uno dei due lati della barricata, adesso dopo un po' di anni ho fatto il giro e lavoro dall'altro lato della barricata. Diciamo, la morale di quello che vorrei raccontarvi alla fine è che non c'è grossa differenza tra i due lati della barricata. Qual è la barricata? Da un lato ci sono i servizi, diciamo, che hanno uno scopo offensivo, sto parlando di consulenza informatica volta a testare la sicurezza dal punto di vista offensivo, e dall'altro c'è consulenza informatica o servizi informatici volti a offrire funzionalità di difesa del proprio, si chiama, perimetro, o della propria infrastruttura o dei propri servizi informatici. Questi sto parlando di servizi che sono offerti alle aziende, al massimo ai governi, non servizi che sono offerti ai singoli. Noi siamo indifesi da questo punto di vista, siamo indifese e anzi siamo reclutati e reclutate, come è stato fatto notare. Ognuno di noi ha un pezzo di silicio in tasca di cui ha scarso controllo, e anzi è tipicamente vittima o addirittura diciamo poco conscio attore di un gioco delle parti molto, molto complesso e sì, è complicato. Ne parliamo dopo di questo. Quindi, il mercato della sicurezza. Che cos'è la sicurezza? La sicurezza è una nuova industria che è nata da una 25ina d'anni come concetto, 25-30 anni si parla di sicurezza informatica. All'inizio era diciamo difesa del perimetro del trasporto dei dati, adesso è molto più etereo, perché il trasporto dei dati non è più sotto il controllo delle aziende. Le aziende, per questioni di scala, delegano le proprie infrastrutture a fornitori di servizi terzi, che tipicamente sono uno di quei tre che è stato detto prima, quindi o Amazon o Microsoft o Google, sono questi tre i grandi cloud. La sicurezza sta al contorno di questa infrastruttura, non al contorno, sta al di sopra di questa infrastruttura. La sicurezza è la sicurezza diciamo del dato contenuto e trasportato all'interno di queste infrastrutture, perché può essere trasportato non solo all'interno di una sola di queste tre infrastrutture, ma addirittura di tutte e tre, a seconda di come l'azienda sceglie di distribuire i propri servizi. Questo mercato della sicurezza di solito si divide in due, diciamo, ha due nomi convenzionali, Red Team e Blue Team. Il Red Team è quello che ha lo scopo di attaccare, questa è una nomenclatura che deriva dalle esercitazioni militari, e il lessico è esemplificativo Red Team è quello che ha lo scopo di attaccare, Blue Team è quello che ha lo scopo di difendere. Diciamo, all'interno del mercato del Red Team ci sono due grosse categorie di aziende che offrono servizi. Quelli che offrono servizi di verifica del livello di sicurezza si chiamano penetration test, quindi test di penetrazione, ovvero io provo come consulente per una parte terza che mi paga a bucare la sua infrastruttura e vedere fin dove arrivo. Ovviamente questo in maniera più o meno controllata e con un contratto stipulato tra le parti, quindi l'attaccante simulato, ma non tanto simulato, può muoversi all'interno di un certo perimetro concertato, quindi non può, che ne so, attaccare tutta l'infrastruttura dell'azienda per cui sta facendo questa consulenza, ma solo una parte. E una volta penetrato, sempre diciamo regolato da questo contratto, c'è la possibilità di fermarsi a un certo punto oppure provare ad arrivare fino alla fine e provare a fare tutto quello che si può fare all'interno dell'infrastruttura del cliente. L'altro aspetto commerciale della sicurezza dal punto di vista offensivo invece è proprio, diciamo, questi sono i cattivi più cattivi, quelli che fanno intrusione e intercettazione, quindi quelli che fanno sorveglianza per conto tipicamente di governi, che sono gli unici che si dotano dell'autorità per rendere legale questo tipo di attività. Diciamo, do qualche nome perché magari così magari qualcuno che l'ha già sentito, qualcuna ci si orienta meglio. Le aziende che fanno consulenza di penetration test esistono sia aziende medio piccole o molto piccole, 10 persone che offrono proprio servizi puntuali e di cui non sto neanche a dire i nomi perché non ha senso, oppure aziende medio grosse che hanno il proprio settore di compliance, cioè come si traduce compliance? Aderenza. Aderenza a uno standard industriale e penetration test, le grandi aziende che fanno consulenza, Deloitte, Accenture, hanno tutti settori di sicurezza informatica. E poi quelle che fanno spionaggio e sorveglianza, ne parlo tra un attimo. Chi è che assumono? Qual è il profilo cioè io perché sono stato assunto? Quando ho iniziato questa cosa qua, io ho iniziato dal settore del team perché non trovavo lavoro altrimenti. Io ero uno smanettone che era uscito dall'università, tra l'altro università tecnica ma non specializzata in informatica, non importa, ti assumono perché l'importante è che sai muoverti un attimo sul computer, sei smaliziato, e non gli interessa tanto dei titoli, gli interessa che ti mettono davanti a un computer, ti danno una serie di procedure e tu le segui e diciamo con un minimo di perseveranza, che è una delle caratteristiche più cercate nel mercato, si arriva a ottenere un certo livello di abilità seguendo dei percorsi noti. Non è niente di, no, come dire, non è fantascienza, sono tutte una serie di conoscenze tecniche. Una volta che si è persa la verginità informatica, sono tutte cose facili da apprendere. E diciamo questo tipo di caratteristiche è trasversale a quasi tutto il mondo della sicurezza, anche lato difesa. Okay. Invece chi fa spionaggio e sorveglianza assume lo stesso tipo di figure, però c'è una figura che non è compresa in queste che ho descritto, che è quello. Prima diciamo cosa fa, qual è lo scopo dello spionaggio e della sorveglianza? Io ho un mandato. Sono più o meno la stessa cosa. Nel mercato sono la stessa cosa. No. Diciamo che le tecnologie sono le stesse. Lo spionaggio e la sorveglianza hanno lo stesso obiettivo, che è di carpire informazioni da un bersaglio, da un bersaglio che è tipicamente una persona, un gruppo di persone. Chi sono? Diciamo, ci sono delle aziende che tipicamente sono molto piccole, do qualche nome così magari qualcuno si orienta di più. Hacking Team era un'azienda italiana che era diventata famosa perché è stata bucata da un hacker buono che invece li ha sbugiardati perché dichiaravano delle cose che invece non erano vere, cioè che non facevano affari con governi dalla dubbia moralità democratica e invece vendevano i loro prodotti a tutti. Il più famoso attualmente, che è stato bandito dagli affari negli Stati Uniti, che è una notizia veramente particolare, si chiama NSO Group, e indovinate dove sta questa azienda? Sono i migliori del mondo. Israele. Sta in Israele. Un'altra si chiama Dark Matter, che sta negli Emirati Arabi Uniti. Però, diciamo, il know-how viene dagli Stati Uniti. No, sono al servizio del governo degli Emirati. E queste aziende quello che fanno è che, diciamo, usano tutte le tecniche che si usano anche nell'ambito del penetration test. Il penetration test è un gioco, no? Io provo veramente, però cioè poi non faccio veramente del male al mio cliente, io gli metto su carta, cioè su un report, quello che ho trovato, il modo in cui l'ho trovato, così il cliente poi sa come mettere le pezze, difendersi meglio, fare un piano di, si chiama remediation, cioè rimediare al danno, rimediare alla falla trovata. Invece lo scopo della sorveglianza è usare queste falle senza dichiararlo per attaccare, attaccare qualcuno, anche giornalisti magari, no? Dipende da chi è che ti paga per fare questa cosa, estrarre informazioni e tenerli sotto controllo. Le tecniche sono simili. C'è una figura che non, perché costa troppo, tipicamente è una figura professionale che è interessante per il mercato dello spionaggio e della sorveglianza, che tipicamente è meno interessante per il mercato dei penetration test, che è quello del creatore di exploit. Quindi è una figura particolarmente avvezza ai dettagli di basso livello dei dispositivi informatici che usiamo, che riesce in maniera particolarmente ostinata a trovare vulnerabilità, e queste vulnerabilità lui, lei o qualcuno, un team dedicato, le trasforma in un vettore di infezione. Quindi io faccio l'esempio pratico, io ho il mio cellulare con un sistema operativo noto, che ne so, quello di Apple, iOS, la persona X fa ricerca su questo dispositivo, con questo sistema operativo, trova delle falle di sicurezza, cioè dei meccanismi con cui questo sistema si rompe in maniera non distruttiva, ma si rompe nel senso che non funziona nella maniera in cui era pensato per funzionare, usa questa conoscenza acquisita per creare dei meccanismi per poter impiantare dei programmi dentro il dispositivo. Questi programmi poi tipicamente fanno le solite cose, cioè controllare, sfiltrare informazioni, sfiltrare dati dal cellulare, eccetera eccetera. Ok, questa era la lunga carrella. Questa figura qui, diciamo, professionalmente viene impiegato o da queste aziende oppure un freelance che crea questi exploit e li vende sul mercato. Il tipo creativo di... sì, però di solito sono team, ormai per il livello di complessità non è una sola persona, sono varie persone che mettono insieme le varie conoscenze per darvi una taglia del valore del lavoro prodotto da queste persone. Un exploit completo, zero click si chiama, cioè senza interazione dell'utente, costa $1,500,000. Non è tantissimo, si comprano. Esistono. Si comprano, questo è interessante anche, cioè c'è un mercato di questo, giusto? C'è un mercato grigio, perché non si capisce se è legale o illegale. Diciamo, è legale se a comprarlo sono aziende che sono al soldo dei governi, se invece sono privati interessati a fare cose di dubbia moralità, tra virgolette, non si capisce se è tanto legale. Diciamo che gli Stati Uniti si sono mossi per rendere illegale questo mercato, però con molti dubbi, anche perché ad esempio, ne parlerò alla fine, un altro degli attori che si muove in questo blob sono le agenzie governative americane, come le agenzie governative di tutti gli stati che hanno interessi in questo tipo di conflitto nuovo, che producono e usano questo tipo di armi. L'altro lato, Blue Team, questo è più facile, giuro, sarò più breve perché sto andando un po' lungo. Queste sono di solito aziende di medio-grandi dimensioni, tra cui quella per cui lavoro adesso, che vendono software o servizi o entrambi, in grado di tenere sotto controllo i sistemi di un'azienda che gli paga i servizi. Io ho una grossa infrastruttura o tanti applicativi o un applicativo molto grosso che voglio tenere sotto controllo, non voglio che mi buchino e non me ne rendo neanche conto, oppure voglio prevenire il più possibile la possibilità che mi buchino, eccetera eccetera, o se mi bucano voglio avere la quantità maggiore di informazioni possibili per minimizzare il danno. Sono tutti aspetti diversi della stessa industria. Questo si chiama, diciamo, Blue Team. Le figure assunte sono più o meno le stesse, magari invece del puro operatore che vuole cercare di intrufolarsi nel sistema, il focus delle assunzioni è più sullo sviluppatore che con una certa cognizione di causa sviluppa software per rilevare questo tipo di intrusioni. E quali sono i nomi grossi? Me ne sono venuti in mente solo due, perché gli altri non sono tanto grossi, però anche questi non è che vi diranno niente. Uno è FireEye, che ha da poco venduto una parte della sua attività come Mandiant a Google. Un altro è Palo Alto, se no vendor sicurezza vari, insomma questi nomi qua. E diciamo il focus principale è vendere servizi o vendere software sotto licenza. Chiudo il discorso con chi è che attacca, quindi chi è quello che di solito viene rappresentato con il cappuccio davanti a un computer in una stanza buia con uno schermo verde con caratteri misteriosi o gibberish a caso. Questo è il, diciamo, Hollywood ce l'ha venduto con Mr. Robot, che è questa serie di questo tipo autistico che fa cose matte. Sono tutte cazzate, nel senso ci saranno pure i tipi autistici che fanno cose matte, ma sono due. È un'industria pure questa, tutto quello che vi ho diciamo descritto è parte di un meccanismo economico che è alimentato dalle richieste del sistema economico in cui siamo immersi. Gli attaccanti fanno parte di questo panorama economico. Da un lato c'è il cosiddetto cybercrime, il cybercrime, oddio, i cattivi, quelli da cui ti puoi veramente difendere, i cattivoni, cioè quelli senza moralità che per soldi provano a penetrare le infrastrutture delle aziende per fare danni e chiedere riscatti, ransomware, oppure estrarre informazioni da vendere ai concorrenti, ma molto più spesso quelli che fanno veramente danni su scala sono i cosiddetti, scusate lo dico in inglese poi lo traduco, nation state sponsored actor, cioè le agenzie dei governi, le agenzie magari anche attraverso privati, cioè nel senso poi sono anche delle persone non necessariamente arruolate nelle gerarchie militari che operano questi sistemi, ma sono al soldo di gerarchie militari. Negli Stati Uniti c'è l'NSA, che ricordiamo, ce l'hanno detto in un sacco di film, no, per renderla amichevole, l'NSA non può avere mandato di operare sul suolo sui cittadini americani, può operare solo al di fuori, quindi su di noi. In Russia c'è l'FSB e l'Interpol. Non è che così, cambia mandato. Ah, bellissimo, quindi in vacca. In Russia c'è l'equivalente dei servizi segreti e una branca di questi si chiama Internet Research Agency, che però in realtà si occupa più che altro di propaganda, che è un discorso gigantesco che potremmo scoperchiare verso la fine. La Cina, la Nord Corea, l'Iran, gli Emirati e soprattutto, e sono bravissimi a tenere basso il profilo, ma soprattutto Israele che fa casino in questo ambito, è soprattutto Israele che opera azioni offensive e di propaganda in ambito informatico, cyber. Sono loro i veri, cioè non so se vi ricordate che qualche anno fa il grande, già a partire dall'amministrazione Obama e poi durante tutta l'amministrazione Trump, il grande contendere con la Cina era: ah, ma voi fate scudo o proprio addirittura esprimete attività offensiva nei confronti di aziende americane per rubare segreti industriali, per portare danno economico, siete i cattivi. Sì, è pure vero, lo fanno pure gli Stati Uniti, anche se gli altri, cioè diciamo che è vero che la potenza economica mondiale sono gli Stati Uniti, quindi tipicamente sono loro che hanno più da perdere rispetto al resto del mondo, ma in realtà i veri cattivi in questo mondo, e non si dice mai, sono gli israeliani. Il più grande attacco nel mondo che ha avuto conseguenze nel mondo reale è stato fatto da Israele in una maniera pirotecnica, a dire poco. Hanno ingegnerizzato e diffuso in maniera molto, molto fantasiosa un virus che ha, attraverso vari passi, infettato i computer che comandavano le centrifughe che servivano all'Iran per selezionare la parte pesante dell'uranio per produrre combustibile per le centrali nucleari e farle esplodere nel senso di renderle inservibili, non fare esplosioni nucleari. e ci sono riusciti, cioè nel senso sono la cosa di più grande scala che è mai successa nella storia di questo tipo di guerra, l'ha fatta Israele, non è che l'ha fatta qualcun altro. Io con questo concludo, se no non finisco più. Va bene, grazie. Passiamo, passerei a N. Voglio dire, per siccome l'orario si fa un po' avanti, noi abbiamo preparato qualcosa da mangiare, faremo una cassetta poi per dei contributi, quindi se volete, finito qua, mangiamo qualcosa, insomma, un aperitivo. Cioè. Allora, okay. Se le slide sono lontane potete avvicinarvi un pochino, non c'è più il sole. Prova, ok, posso parlare con questo. Allora, io vi parlo di AI warfare, AI inteso intelligenza artificiale. Prima cosa da mettere in chiaro, il termine AI contro l'idea di cyber. Cyber è un termine che viene usato oggi per intendere cybersicurezza, quello di cui hanno parlato i relatori precedenti. Viene a un termine che ha una storia, deriva dall'idea di cibernetica, che era una scienza che è nata negli anni 50 e poi si è evoluta fino a scomparire come nome. Invece quello che parlo è intelligenza artificiale, che è un altro tema che ha applicazioni belliche diverse, non è direttamente offensiva o difensiva, è più uno sviluppo di tecnologie che possono essere usate anche in contesto bellico. Partiamo da quando si parla di intelligenza artificiale. Allora, è un po' un termine, cioè l'intelligenza è un po' un termine di marketing anche, di chiamarla intelligenza artificiale, perché non è veramente intelligente. Nel senso, è un po' una scelta di nome che è stata usata, però c'è chi dice non si può non usare questo termine perché è solo un'invenzione di chi fa marketing. È un termine che comunque ha una storia, nel senso che provano a farla queste AI degli anni 50, quindi ha un suo percorso, una sua cosa. Io sono per usare il termine, però tenendo presente che di intelligente non c'è molto. Cioè. Allora, vediamo, partiamo un po' dalla storia di questo termine, visto che ho parlato della cosa antica. Nasce negli anni 50, quando speravano di poter fare robot nel tempo di 20 anni. 20 anni siamo come Asimov, con la possibilità, l'idea di poter fare macchine che pensano, macchine intelligenti. Non ci sono riusciti. Come è successo? Come pensavano loro l'intelligenza? La pensavano in termini molto cartesiani, volendo anche pensando da Aristotele in avanti, l'idea di logica, di per loro un sistema intelligente poteva essere un sistema in cui ha delle conoscenze che noi li programmiamo come teoremi, come assiomi. Costruiamo un programma che riesce a combinare teoremi, derivare assiomi, trarre conclusioni da clausole logiche che gli vengono messe, quindi una serie di affermazioni, derivare, fare domande. Questa cosa nel senso funziona, cioè per interrogare un database, per chiedere informazioni al computer in modo rigoroso, gliele chiedi, ti risponde, però non è veramente intelligente, non sono riusciti poi a farci molto. La cosa che è successa è che c'era con questo molto boom mediatico anche del termine, quello che stiamo vedendo un po' adesso anche, questa aspettativa della vera intelligenza da qui a poco, molto capitale investito, questo capitale non è tornato, si è avuto quello che è chiamato AI Winter, l'inverno delle AI, in cui tra gli 80 e gli anni 90 non se ne poteva parlare, perché era ovvio che fosse fuffa e quindi non potevi parlarci, non potevi investirci nulla. Quello che è successo, questo fino agli anni 90. Poi è ricomparso quello che è l'approccio connettivista, sì. Che era una cosa già presente nei primi prototipi, già nel 50 si parlava di questo tipo di tecnologie, però non c'erano ancora l'hardware o il modo di utilizzarlo. Questo approccio parte da un modello della mente umana molto semplificato, in cui si assume, per esempio, che si assumono neuroni, si pensa a un neurone come se fosse semplicemente, adesso vedo fare un po' parallelo, segnali, sono sempre segnali, quindi anche la musica contesto, un mixer con dei canali di ingresso e un effetto. Ogni neurone è un mixer con 3, 4, 1000 manopole che applica un effetto e lo passa al neurone successivo. Questa cosa, se ne combini insieme centinaia o migliaia, mettendo il modo giusto le manopole, è dimostrato che può approssimare qualsiasi funzione possa essere calcolata. Quindi qualsiasi tipo di programma può essere rifatto a colpi di mixer e manopole, a mettere le manopole giuste. Questo sono riusciti a fare negli anni 90 perché è arrivato l'hardware per poter far girare questo tipo di calcoli, che alla fine sono moltiplicazioni e somme, però sono molte moltiplicazioni e molte somme, quindi si usano hardware recente. Poi torneremo anche su un altro motivo per cui è comparso di recente. Parliamo piuttosto, apriamo una parentesi sulla cibernetica, il termine che adesso si usa come cyber, però da dove ha origine, che è un po' l'altra origine di quella che è l'AI oggi. La cibernetica andava di moda negli anni 50-60, oggi non se ne parla più, non esiste più, in realtà esiste ancora, anzi viene chiamata come teoria dei sistemi o teoria dei segnali, ed è un po' la base di tutta quella che è l'ingegneria moderna. L'ultimo mezzo secolo qualsiasi scienza pratica applica approcci cibernetici. E soprattutto si è smesso di parlarne quando, con l'ultima iterazione del modello capitalista, quando sono state implementate alcune idee di von Hayek e i suoi seguaci, dell'idea di mercato come sistema che si autoregola, come il capitalismo come modo migliore per controllare la società anche senza bisogno di stati. La società si controlla solo grazie al mercato. Questa cosa è diventato il neoliberismo e si è smesso di parlare di cibernetica perché non esiste più, perché ormai è tutto. Come nasce? Allora, nasce nel... abbiamo questo Norbert Wiener, che è uno scienziato che durante la Seconda Guerra Mondiale si occupava del tracciamento dei missili, tracciamento degli aerei nemici, dove ha sviluppato sistemi, cioè era incaricato per conto uso bellico, di sviluppare sistemi per cercare di prevedere il comportamento degli aerei nemici, di prevedere le mosse del pilota e poterli puntare di conseguenza in modo automatico, con l'hardware dell'epoca, quindi cose relativamente semplici. Finita la guerra, diventa antimilitarista, rifiuta di ricevere finanziamenti dall'esercito, si dedica alla neurologia, campo in teoria innocuo, e lo credeva innocuo, poi alla fine si è reso conto che fosse finita male come quello che aveva fatto, e propone questo modello universale alla fine di questa scienza universale sul controllo della comunicazione nell'uomo e nella macchina. L'assunzione di base è che lui prende il sistema nervoso come modello ideale di ogni tipo di sistema, quindi sia biologico sia meccanico, e in questo modo rende anche possibile l'idea di pensare a un uomo meccanico, al robot, perché se possiamo analizzare una macchina come se fosse un sistema nervoso, vale anche viceversa, e le due cose sono funzionalmente equivalenti. In parallelo, nello stesso anno, un altro scienziato che ha lavorato in guerra, in questo caso come crittografo, Shannon, non mi ricordo il nome in questo momento, ma lo sapevo, Shannon ridefinisce l'entropia, crea la definizione di entropia dei segnali. Shannon fonda la scienza della studio dei segnali. Prima l'entropia era quella di fisici, che indicava semplicemente il rumore, il calore, cose non controllabili, non misurabili, sono entropia. Shannon ridefinisce l'idea di entropia sempre come quantità, come misura di quanto un sistema non è prevedibile. E in questo modo misura la quantità di informazione di un sistema. Meno un sistema è prevedibile, un sistema, un segnale, qualcosa che passa per un cavo, quanto meno è prevedibile il prossimo segnale che riceverà, il prossimo valore che misurerò, quanto più questo segnale contiene informazione. Idealmente il rumore è informazione massima. E infatti quando prendiamo un file, lo comprimiamo, questo file va a assomigliare al rumore. Non è tanto più un file è compresso, tanto più indistinguibile, per chi non sa cosa guardare ovviamente, da rumore bianco come suono, come segnale. Vediamo l'idea di cibernetica, alla fine il modello più semplice a cui possiamo pensare, che è il meccanismo alla fine che... Vedete le slide, vero? Vabbè, è semplice in realtà. Sì, no? Perché c'è poca luce. C'è troppa luce. Troppa luce. Descrivila. Alla fine, sì, l'idea... Il meccanismo di base di tutto quello che è l'approccio cibernetico è il termostato. Il termostato venendo di casa. Quindi abbiamo un meccanismo di controllo che si interfaccia al mondo esterno o oggetto da controllare in due punti. Questo sistema di controllo, chi sviluppa il sistema di controllo non deve conoscere il mondo esterno, non deve conoscere l'oggetto controllato, che può essere una scatola nera di qualsiasi tipo. Quindi anche non importa sapere un sistema vivente o meno che stiamo controllando, il pilota nemico, non devo pensare cosa ha in testa. Basta in questo caso non è un pannello di tracciamento ma di controllo, è un sistema, il termostato per esempio. Al termostato basta avere un sensore di temperatura e un attuatore, quindi non poter accendere e spegnere il termosifone, aumentare e diminuire la temperatura del riscaldamento. E si crea un anello in cui il termostato misura la temperatura, confronta la temperatura misurata da quella che si aspetta, quella su cui è programmato, calcola la differenza, fa la sottrazione. Questo valore è il misure di errore che usa per pilotare il termosifone, quindi accendere o spegnere il riscaldamento in funzione della variazione di temperatura. In questo caso, quando l'errore è valutato negativamente, quindi viene sottratto, quando l'errore è trovato la differenza, quello atteso e quello voluto, viene usato messo nell'attuatore per spegnere il termosifone, per esempio, quindi ridurre il termosifone al crescere dell'errore. Quando questo meccanismo è opposto, si ha un feedback negativo che porta il sistema casa più riscaldamento ad avere un punto di stabilità, quindi a stabilizzarsi intorno alla temperatura che il termostato vuole raggiungere. In questo modo, quando il sistema è stabile, una qualsiasi piccola variazione del sistema controllato viene misurata come errore, amplificata e utilizzata per controllare il riscaldamento, e si annulla in questo modo le variazioni, si stabilizza il sistema. Quando per progettazione, difficilmente, per caso, succede che se ha un feedback l'errore non viene cambiato di segno, non ha il segno opposto, ha un segno positivo, il sistema non va più a stabilizzarsi verso il punto di stabilità, ma diverge, si schizza via lungo la linea di fuga e va a finire in quelle che possono essere o una crescita esponenziale, crescita infinita, meccanismi, sistemi caotici in cui oscilla non si sa dove, non si sa, non è prevedibile dove. In questo caso, quando qualcosa si è rotto, in genere a livello ingegneristico, un sistema non vuoi che diverga, perché se diverge non lo puoi controllare e o si brucia qualcosa oppure non sai quello che sta facendo. Una cosa importante in questo tipo di approccio è che l'interfaccia tra il sensore e il mondo, il sensore e il controllato, sia quantificabile. Il sensore deve riuscire a trasformare in numeri quello che vuole misurare per ottenere l'informazione che per poi calcolare l'errore, calcolare il discostamento. Quali sono le vulnerabilità di questo tipo di approccio? Che alla fine funziona, anzi è diventato un po' l'idea di informazione che transita tra un punto e l'altro, è un po' un'ontologia alla base di quello che è molte delle scienze. Alla fine anche l'idea di autopoiesi, di meccanismi che si autoregolano, che si autostabilizzino, che determinano se stessi in funzione della sua loro capacità di mantenere se stessi, è un po' in questo, deriva da questo. Quali sono i limiti di questo tipo di sistema? Fondamentalmente un limite è il fatto del rumore. Ogni sensore ha valori troppo piccoli, non riesce a misurarli, o se li misura casuali, quindi è come se ci fosse una nebbia di fondo. Ogni sensore ha una nebbia di fondo in cui segnali troppo piccoli vengono nascosti, vengono persi, e deve decidere arbitrariamente il progettista a quale livello di intensità, sopra questo lo considero come cosa interessante, sotto questo è rumore e nebbia, non posso sapere cosa sia, o spendo più energie e più risorse a fare un sensore migliore con una nebbia più bassa. Qua vediamo un disegno, le fine delle slide sono molto figurative, quindi questo è un sensore, penso un LED ottico che misura sensore di luce, e queste sono le varie cose che riceve, c'è un rumore di fondo e alcuni picchi emergono e altri picchi sono persi nel rumore, ne verranno persi dal sensore a meno di non filtraggi o cose costose. Altro limite di questo sistema è, come dicevo, la stabilità. Questo tipo di meccanismo controllato può accidentalmente uscire dal punto di stabilità. Quello che succede è che spesso il sistema inteso come controllore più mondo, più oggetto, ha delle frequenze a cui tende ad oscillare, a cui tende spontaneamente per sua struttura, come è costruito, per come è progettato, per come esiste, a oscillare spontaneamente. Se una stimolazione esterna o interna va allo stesso ritmo di questa frequenza, come un'altalena, se viene colpita al tempo giusto, questa cresce sempre di più. Alla fine un'altalena è un sistema smorzato, quindi si può vedere come un meccanismo di controllo, cioè automatico, in cui tende a stabilizzarsi verso il punto in cui l'attrito con l'aria va a ridurre l'errore e la porta a fermarsi. Se viene stimolata al ritmo giusto, questa non si ferma. È successo, questo è un esempio di un vecchio filmato in un ponte, in cui gli ingegneri non hanno tenuto conto di questo problema, e è successo che il ponte alla fine è un po' come una corda tesa da una chitarra, il vento l'ha colpita al ritmo giusto e il ponte si è rotto, si è messo a oscillare follemente e poi si è scoppiato. Allora, adesso pensiamo a un altro tipo di sistema di questo tipo, in cui non è tanto più lo scopo per controllare quanto predire. In questo caso c'è sempre il gioco del misurare l'errore, che non viene più usato però per attivare un sensore, ma per girare la manopola nel predittore stesso. Quindi il nostro oggetto, strumento di controllo, di predizione in questo caso, anziché agire sul mondo per portarlo al punto di stabilità, agisce su se stesso per seguire sempre con più precisione il segnale che gli arriva. Cercare, girando le manopole giuste, più manopole ha meglio è, a predire quello che gli sta arrivando, che in questo caso potrebbe essere quello che faceva Wiener in guerra. Il pilota si sta muovendo, il sistema di controllo registra i segnali radar, gira delle manopole più o meno virtuali o programmate per correggere e ridurre l'errore, e alla fine riesce a seguire l'aereo nemico. Cosa succede? Questa cosa è in tempo reale, in cui cerca di predire al momento. Cosa succede se abbiamo un sistema con molte manopole, come la rete di prima per esempio, abbiamo molti dati registrati? Possiamo far vedere al nostro modello, al nostro predittore, i dati, migliaia di dati registrati, migliaia di ore di registrazioni di aerei che si muovono, o di qualsiasi altra cosa vogliamo cercare di predire o classificare. Mostriamo migliaia di ore, giriamo le manopole giuste per fare in modo che minimizzi l'errore sugli esempi, poi gli mostriamo un dato vero e a quel punto lui è già programmato per seguire, predire o classificare per ridurre l'errore, insomma. Poi sarà una media, non sarà, però riesce a predirlo. Questo tipo di approccio, quindi avere una separazione di dati registrati su cui allenare il modello e dati poi live in fase di inference, in fase di pratica, di produzione, si può applicare in quello che è il machine learning, che è un po', volendo, un sinonimo di AI, un po' più tecnico, più realistico, meno fuffa. E machine learning sono macchine che imparano. Cos'è che imparano? Sono modelli con molte manopole o algoritmi di vario tipo che vengono allenati su esempi, ridotto un errore, e una volta il modello appreso, è pronto, può essere usato su dati reali e riesce per esempio a distinguere un colore da un altro, una lettera da un'altra, dati o anche dati statistici alla fine, questa cosa sono modelli statistici. Caso particolare nel machine learning, infatti, le reti che dicevo prima, in cui tutte le varie manopole, che sono i vari volumi dei vari milioni di mixer collegati, vengono girate in modo automatico in funzione dell'errore. Matematicamente è relativamente semplice, una volta che si ha l'errore alla fine, propagarlo all'indietro, back propagation, propagarlo all'indietro e vedere questo errore quanto è influenzato dalle singole manopole, e quindi girare le singole manopole in corrispondenza. Fatto con un dato, fatto con un miliardo di dati, le manopole arrivano un po' al punto medio in cui bene o male riesce a distinguere quello che arriva tutto. Se la rete è fatta abbastanza bene, se la rete è troppo piccola o non ha visto avanti esempi, non riesce, e quindi sta al lavoro di progettare le reti, cercare di farle il trade-off. Ovviamente quando si fa in fase di allenamento sono molto costosi a livello di hardware, servono schede grafiche. Alla fine i prezzi, diciamo che una persona normale, cioè un PC da videogiocatore con una scheda grafica buona, può allenare piccoli modelli di qualche tipo. Un'azienda però a questo punto conviene rivolgersi al cloud, rivolgersi a Google o Amazon, affittare dei server per 10-100 euro al giorno o al mese, dipende da quanto grosso vogliamo il nostro modello. Affittiamo in questo e al minuto, se vogliamo una cosa fatta bene o molto grossa. Una cosa che sta succedendo di recente è che molti modelli vengono preallenati da qualche grosso giocatore, tipo un Google, un Microsoft, allena un modello gigantesco, lo rilascia libero perché ha interessi commerciali nel farlo, e le piccole aziende possono prenderlo con costi contenuti relativamente, riallenarlo solo su dati specifici loro del loro campo e usare questa rete già riallenata. Il termine tuning si usa per dire allenamento, in inglese vuol dire accordare anche uno strumento, quindi è l'idea di muovere le manopoline per far suonare come dovrebbe in relazione ai dati su cui viene allenato. Vediamo un po' di applicazioni in cui vengono usate. Adesso le figure qua anche sono puramente pittoriche, in realtà, cioè sono spiegazioni di come è fatta veramente la rete, però vedetela un po' come un ingegnere che ci lavora, come se la immagina. Alla fine tutti questi quadrati sono dei rettangoloni con un milione di manopole, messi impilati, messi uno dopo l'altro, collegati come su tanti fili, e il segnale passa attraverso e viene processato da tutte queste manopoline che girano. In questo caso è una rete che riconosce numeri scritti, un dataset di test classici, un esempio più tipici, deve provare a insegnare una macchina, a una pila di matrici, a riconoscere un numero scritto a mano. quello che fai alla fine funziona un po' come queste manopole applicate alle immagini, funzionano un po' come i filtri di Photoshop, i filtri di programmi per le immagini. Ce n'è uno per riconoscere i contorni, questa macchina a un certo punto impara a riconoscere il contorno, poi combina la parte in cui più in alto è più colorato, più in basso è meno colorato, a seconda di che numero è, e va a finire nei vari percorsi, e alla fine la nostra biglia finisce ad accendere una lucina alla fine sul quale cifra è stata scritta. Questo è un esempio nel testo. Ci sono reti che riconoscono o generano audio, quindi quello che Alexa, il Google che parla, quella roba lì è una rete che è allenata per generare forme d'onda, allenata su forme d'onda presente, già che ha visto nel dataset. O anche adesso si sta parlando, se ne parla molto, dedicarci due parole, sulle reti per generare testo. Tu puoi, così come si possono riconoscere immagini, possono anche allenare reti per riconoscere o generare testo. Quelle di cui sta parlando molto in questo caso è GPT-3, allenata da Microsoft, o meglio, OpenAI è una no profit fondata da Elon Musk, adesso in partnership molto stretta con Microsoft, di fatto è Microsoft. Ha fatto questo modello che è gigantesco, non l'ha rilasciato, le versioni più piccole sono pubbliche, la versione grossa, cioè il come è fatto il modello è pubblico, hanno pubblicato il paper in cui dicono abbiamo fatto così, però è così grosso che o sei Microsoft, Google può rifare il suo grosso uguale, l'ha fatto, cambiando qualche virgola per provare qualcosa di meglio nel caso, però un'azienda piccola, un'azienda normale, una persona normale, figurati se può, una persona normale al massimo può prendere un modello di quelli più piccoli, di quelli open source più ridotti e provare con costi contenuti a farsi un fine tuning a ritoccare il modello per questo specifico caso d'uso, in cui questa cosa si può fare umanamente. Fare da zero una cosa del genere ovviamente no, anche perché questa rete, questo GPT-3 è stato allenato su tutto internet. Hanno rastrellato tutto Reddit, tutti i forum, tutti i blog, Wikipedia, tutto quello che miliardi e miliardi di testi, e dati in pasto a una pila di matrici allenata per indovinare la parola successiva. Come quello del telefono che ti completa, però anziché aver visto i tuoi messaggi ha visto tutto lo scibile umano con il peggio anche delle possibili cose che può aver visto. E quindi non lo rilasciano, dicono perché è pericoloso, c'è dentro il peggio razzismo, le peggio cose, non vogliamo che chiunque possa farci quello che vuole. E adesso è aperto a usare su ogni, cioè hanno una demo pubblica in cui ogni persona ha qualche migliaia di richieste che può provare a fare, li stanno usando per provarle a generare storielle, generare raccontami una barzelletta o raccontami un green text stile 4chan che inizia così. E uno di questi, per esempio, sono io, sono un AI, completa. Sono un AI, mi costringono a scrivere green text, aiutatemi. Questa cosa qua adesso, ok, cioè, è divertente in realtà. Il problema è che una risposta di Google a questa roba qua, che è un'altra rete grossa uguale, hanno provato a svilupparla, a aggiungere come cosa in più il, ok, diamogli la possibilità di fare, visto che questa tecnologia può essere usata anche per fare i riassunti. Si può usare ovviamente per fare la linea, riassumere un testo, ti passi un testo, tira fuori il riassunto. Combiniamo questa cosa del completare le frasi con fare riassunti da siti presi al momento. Quindi va a indovinare su quale sito andare a pescare, ce l'ha in memoria, fa il riassunto di quella pagina lì, risponde col riassunto integrato nel complemento della frase. E un ingegnere di Google si è convinto che fosse cosciente. E si è dimesso, è un prete questo, è convinto. Io ci ho parlato per dei giorni, mi rispondeva per termini filosofici corretti, ovviamente ha visto tutti i forum di filosofia del mondo, e quindi è cosciente sta cosa. Il problema è che anche nelle migliori, assumendo l'ipotesi cibernetica di un uomo, robot, eccetera, che un minimo di vita consiste quantomeno, se si vuole parlare in termini cibernetici, di un sistema in un corpo che interagisce in un ambiente e cerca di preservare se stesso. Questa cosa, a parte non avere un corpo, non avere un ambiente, non ha neanche memoria. Completa la frase. Il giorno dopo gli riparli e non esiste più memoria, perché non ha imparato. Ha imparato una cosa, la fase di allenamento è diversa dalla fase di inference. Non si ricorda di aver parlato, si ricorda la frase prima perché sta dicendo, però poi finita la generazione la memoria è ancora quella di prima e l'output ricomincia. Quindi non, e il fatto che si stia dibattendo su è questa cosa cosciente, insomma, cioè a livello puramente metafisico non è questo, comunque non potrebbe essere questo, non ha senso. Fine parentesi di linguaggio. Sì, le cose possono essere anche combinate, un'altra cosa che si sono visti nei meme, allenare un modello, modelli che generano immagini, questo modello allenato per riconoscere didascalie. Si prende un modello allenato per abbinare l'immagine alla descrizione giusta, lo si prende, lo si allena insieme a uno allenato per riconoscere un testo, cioè partito un testo, ne crea col gli stati di neuroni una sorta di rappresentazione di forma compressa di questo testo, lo si proietta, lo si collega su a una rete che genera immagini, la si allena su didascalie e lì si possono che degenerare cose come il granchio più grande del mondo, JP Morgan, come appare. Questa roba qua, anche qua, quello stato dell'arte è DALL-E e DALL-E 2, fatto anche qua da OpenAI, quindi Microsoft, tenuto ovviamente chiusissimo perché è pericoloso, va troppo realistiche. Qualcuno si è messo privatamente con server di Google che gli ha chiesto il permesso gratis, tanto Google per cose di ricerca comunque ha interesse nel lasciare persone più privati sperimentare liberamente, e ha fatto ok, fate pure ricerca, ha fatto una roba di qualche settimana di train relativamente economico, cioè per chi l'ha fatto gratis, per Google c'ha la san briciole, per fare una versione completamente open source di questo modello piccolino, gira anche sul computer, l'ho provato su un mio PC di lavoro che è un portatile normale con una scheda grafica, di queste immagini qua farne una a 5 minuti più o meno, su processore neanche scheda grafica, quindi questa roba qua è usabile anche da privati, anche magari anche ritoccabile, fare fine tuning o cose, ci si può lavorare anche privatamente con budget davvero minimi. Vediamo, qualcuno ha già accennato i problemi, questo tipo di tecnologie che problemi si porta dietro. Il primo è le crowd workers, il fatto che noi non stiamo veramente, cioè siamo, le macchine non stanno generando nuovo contenuto, hanno imparato, hanno compresso, hanno riassunto lo scibile umano o cose che gli vengono chieste di riassumere quel caso specifico e poi impara a riproporle con in modo automatico. E questo parlo del turco meccanico, che è questo esempio di turco che giocava, faceva finta di giocare a scacchi, anche perché Mechanical Turk è un servizio di Amazon che offre la possibilità di affittare persone che fanno compiti ripetitivi, quindi per qualche decina di euro, centinaia di euro, una persona può, un'azienda in questo caso, penso un settore ricerca di Google o un settore ricerca di università, può, noi vogliamo fare una rete che impara a distinguere i cani dai gatti, come, ci sono già standard queste cose, però ci serve qualcuno che prenda mille o milioni di foto di cani e di gatti e scriva di fianco cane, gatto. Chi lo facciamo? Lo facciamo noi? No, paghiamo un qualcuno in un paese in cui l'opera costa di meno, tramite Amazon, che ce lo fa fare. E noi torniamo con una sorta di dataset di cani e gatti classificati che noi passiamo alla rete e abbiamo una rete che distingue i cani dai gatti. Quindi sta un po' delegando, cioè è un po' comunque un lavoro umano che viene nascosto e compresso. Questo porta a un secondo problema, il bias. Il dataset, i dati che gli mostriamo, quanto rappresentano discrepanze statistiche, opinioni, preconcetti più o meno inconsci di chi lo fa, in questo caso ponente statistico, nel senso se la nostra rete allenata per aumentare la risoluzione di un'immagine ha visto molte facce, un milione di facce, di cui però l'80% erano bianche, gli diamo Obama, diciamo aumenta la risoluzione aumenta, però per come ha visto che le persone sono fatte, quindi esce questo, cioè, se non so se vedete c'è Obama bianco ricostruito, cioè un Obama pizzerato a sinistra e poi un volto che non è palesemente Obama, è bianco, però la stessa faccia più o meno, vagamente, è bianchissimo, ricostruito dal bias della rete neurale. Questo è un modello vecchio, quelli nuovi, adesso ci sono fronti di ricerca, anche a fronte dei problemi di GPT-3, come non, o togliere il bias da una rete, caso uno è passare i dati, dataset già filtrato in origine, quindi cercare di bilanciarlo a mano, a quel punto stai comunque portando i tuoi pregiudizi di chi fa il bilanciamento dentro la rete, meglio di niente, ma comunque già stai, non c'è una cosa oggettiva a questo punto di vista, c'è sempre il pregiudizio di qualcuno che sceglie quali dati mostrargli. Oppure, a valle, partire da modello già biased, fargli un fine tuning, un riallenarlo con meno dati, però sbilanciato in un altro senso, e quindi magari cercare di bilanciarlo. Per esempio un caso è GPT-3, quando gli viene chiesto un tale persona è, o che ne so, e gli puoi fare completare le barzellette con i pregiudizi delle persone. Un napoletano entra in un bar e lui completa. Un milanese entra in un bar e lui completa. E dice cose diverse, un milanese o un napoletano, perché ha visto internet. E si può rifargli un altro allenamento in cui gli dici sono cose buone i napoletani e lui comunque poi esce uguale. Cioè riesce a imparare cose migliori, a rilanciarsi. Però lì anche lì sta nel imporgli un contro bias scelto arbitrariamente da chi gli fa fare l'allenamento. In alcuni casi, come le questioni di genere, è relativamente facile, basta, non è vero che, cioè, si è visto una percentuale maggiore di cuoco o cuoche ci sono anche cuochi e non solo cuochi, gli fai un dataset sbilanciato di 100.000 esempi, lui gli passi e lui ha imparato, cose più sottili come pregiudizi razziali o culturali è molto più difficile, se non probabilmente impossibile. Un altro attacco, più una vulnerabilità più pratica, più sono gli attacchi adversarial. Qui vediamo questo adversarial patch. Noi abbiamo una rete che impara a riconoscere gli oggetti, una rete che distingue un oggetto che c'è in immagine. Vediamo se è una banana, dice questa è la banana. Se noi alleniamo una rete, alleniamo un'altra rete per generare immagini che vadano a fregare la prima, possiamo fare un poggia bicchieri, un dischetto di carta, che è un tostapane così tanto che se lo metti di fianco a una banana, questo è nel flyer di Lost, tra l'altro. Esatto, il nostro tostapane. Il vostro tostapane, il nostro. Gli metti di fianco una banana e quello vede un tostapane, perché ovviamente vede solo il tostapane lì dentro. Questa è una ricerca che ha fatto Google nel 2018, allenando qualche sua grossa rete per generare queste cose. Si può fare attacchi adversarial a livello più pratico, che ne so, su cose più concrete come riconoscimento facciale. Questa cosa l'ha fatta all'Università di Hong Kong quest'anno, in cui ha visto che con tracci semplici, quindi un pattern semplice di chiari scuri proiettato su un volto, riesce a impedire il riconoscimento da parte di algoritmi anche avanzati di riconoscimento 3D. Questo ovviamente a Hong Kong hanno interessi pratici a voler fare ricerche in questo campo. È relativamente scomodo comunque, perché comunque devi avere un proiettore che proietta fasce bianche nere sulla faccia di qualcuno e quello non è riconoscibile. Funziona nel mondo reale, però se fino a un certo punto. Un approccio più interessante sarebbe avere qualcosa che ne so, che stampi sulla mascherina, e a quel punto la tua mascherina è così tanto una faccia, così tanto un tostapane, che non è più, non viene più riconosciuto. Questo un tizio americano ci ha provato tipo un paio di anni fa, l'anno scorso. Il problema è che lui, avendo comunque risorse personali, budget indotto, ha tra i vari algoritmi di riconoscimento facciale che ha provato ad attaccare, ne ha preso uno, il più semplice di tutti, uno non neurale, quindi un algoritmo statistico per riconoscere le facce, ha osservato, ha allenato un modello machine learning, qual è lo pattern, qual è la trama che sembra una faccia. Se, non so se lo vedete, però in quella maschera ci sono una serie di righettine orizzontali, bianche su nere, che c'è una faccia in quelle righettine. Per noi è intravista, per quell'algoritmo quella è una faccia, lui vede la faccia lì dentro, sono gli occhi, la forma della bocca. Ovviamente non ho trovato cose fatte contro reti neurali, contro algoritmi più avanzati, questo funziona contro uno semplice, però è un campo in cui magari è interessante fare della ricerca. Vediamo a conclusione di questo lungo talk, cose puramente, l'ultimo capitolo, prettamente di guerra. Quindi quanto le AI vengono usate veramente in contesti bellici, conflitto fisico. La prima cosa di cui volevo parlare è il progetto Maven, se ne è parlato un paio d'anni fa. È un progetto finanziato dal 2017 dal governo americano, Dipartimento della Difesa, che chiedeva alle aziende che volevano collaborare, in cambio di fondi, di sviluppare algoritmi di riconoscimento di video, riconoscimento di immagini, da far andare su molti ore di filmato che avevano a loro disposizione. Cosa aveva il governo americano? Molte ore di filmato su cui fare analisi, e in caso da utilizzare questa analisi counter insurgency e contro terrorismo. Cos'erano? Erano i video dei droni. Erano i filmati dei droni telepilotati, che però filmavano. Abbiamo migliaia di ore di filmati di zone desertiche, persone che vengono sparate, villaggi e cose. Vogliamo allenare degli algoritmi, vogliamo qualcuno che ci alleni degli algoritmi, qualche percorso privato, che sviluppi reti neurali o meno, per riconoscere le persone dalle case, dagli oggetti, da bersagli, seguire il bersaglio, questo tipo di roba molto pratica sull'appuntamento. Come è successo? Come inizia la storia? Nel 2018 è venuto a galla che Google stava partecipando. Grande clamore tra i lavoratori di Google, si sono rifiutati, sono lamentati. Google ne è uscita, ha deciso: ok, noi non vogliamo più fare questa cosa, bene, abbiamo tradito il not be evil, qui era il nostro slogan iniziale, non essere malvagi. Abbiamo fatto, ci dispiace, ne usciamo. Due anni dopo, nel 2021, come è finita? Microsoft e Amazon ci stanno lavorando. Quindi alla fine lo stanno facendo gli altri, non Google. Comunque, Google, Amazon e Microsoft sono grossi in questo campo, che sono quelli che anche affittano i server. Gli altri, Apple e Facebook, non hanno i loro server, hanno la loro infrastruttura, però non l'offrono come servizio a terzi, che io sappia, poi magari ne parliamo nel dibattito. Però hanno la loro roba, sono grossi uguali, ma non lo usano per vendere a terzi, si tengono loro. Questo poi forse era meglio dirlo dopo, non c'entrava molto adesso, però se ne parlava. Altro campo, i robot, questo robot da guerra. Abbiamo due esempi di robot, anche se ne ho parlato un po', se ne sono visti, della Boston Dynamics Robot. La Boston Dynamics nasce in un'azienda che nasce nel 92 da una costola dell'MIT, un laboratorio di robotica dell'MIT che si occupava di bracci robotici. Si sono staccati, hanno fatto la loro azienda e hanno fatto per 20 anni collaborazioni con il Dipartimento dell'Esercito americano, il DARPA, per sviluppare robot di supporto alle truppe, principalmente il trasporto merci in seguito dell'esercito. Risultati più o meno un robot molto rumorosi, quindi anche difficile usare sul campo. Cosa è successo nel 2013? L'ha comprata Google nel 2013, sì, e a questo punto è iniziato un po' a lanciare una campagna per rendere questi robot molto, molto, molto simpatici, molto teneri. Quindi c'è il cane robot, si chiama Spot, i robot che ballano, tutta una serie di video virali in cui ci sono questi robot che ballano, che vogliono essere molto, non molto, cercare di toccare la nostra corda di empatia per farti accettare come qualcosa di sano, e non ovviamente usciti da Black Mirror, che ce ne sono di uguali in Black Mirror in alcuni episodi, e seguono le persone, terribile. Cosa è successo? Nel 2021 la polizia di New York ha deciso di adottarlo per supporto alle operazioni di polizia. Anche qua gran clamore, l'hanno ritirato, non lo usano più, lo usano nella Hawaii per misurare la febbre senza tetto. Compenso. New York non c'è, tutt'altra parte lo c'è, lo usano. E ce n'è uno anche a Pompei che pattuglia gli scavi con il carico di sensori, va in giro per Pompei a misurare cedimenti nelle rovine, tenere la barda, controllare se passa qualcuno, pattuglia, insomma. E una cosa, Boston Dynamics però, buona notizia, ha detto che non farà tecnologia militare, quello che solo uso civili e polizia, ma non a uso bellico. Buona notizia, la rivale di Boston Dynamics, Ghost Robotics, ha detto espressamente che lei farà tecnologia militare ed è già in servizio a Messico, li usano al confine con gli americani e col Messico, ci sono già dei cani robot che aiutano le operazioni di controllo confine. Uno lo fa, l'altro lo prende, nel senso uno si rifiuta. È il mercato. Controllo automatico dei feedback. Ultima slide, mi sono letto un po' di articoli di giornali che parlano, che vendono un po' di tecnologia bellica, che sul scenari possibili, presenti, futuri e cosa, come vogliono andare. Quello qui sta andando un po' la direzione è veri robot che, a parte il trasporto carico merci, o che a supporto troop fanno missioni quelle che sono dumb, dirty and dangerous, quindi o operazioni troppo lente, troppo ripetitive per essere fatte da umani, o troppo in ambienti sporchi, contaminati o cose del genere, o pericolose ovviamente. Altra filone è usarli come supporto alle truppe, quindi a fianco delle truppe usare robot che abbiano sensori, fondamentalmente sensori o anche attuatori, anche armi, per comunicare informazioni su aiutare l'appuntamento dei soldati, aiutare il tracciamento del nemico. Cosa che ho visto passare ieri notte, dopo aver finito le slide, ho visto che appena salvo, ok, è finito, apro Telegram, vedo passare la notizia che sul fronte ucraino stanno usando attualmente, un'azienda ucraina produce, dei robot unmanned, quindi telecomandati, non droni, ma su ruote, con una mitragliatrice. Quindi robot semi-autonomi, teleguidati, che possono essere usati sul campo di battaglia. Adesso non ho visto quanto siano autonomi, non ho approfondito poi, la notizia dell'altro giorno comunque. Se siano già sul campo o stanno venendo prodotti in questo momento. Allora, vi lascio nelle slide, ci sono tutti i link che ho trovato, quindi un sacco di link. Se volete la versione riassunta, sono su questo page spin o su questo canale Telegram che ho fatto per l'occasione, e Telegram e AI Warfare. Ci sono tutti i link postati, ne posterò altri quando trovo roba, e ci sono anche le slide. Se no poi metterò le slide, il link, o girare la slide all'host, comunque farò in modo che siano sul sito. Non ci sono già, non penso. No, ancora non le abbiamo messe, le mettiamo. Intanto, grazie mille. Mi verrebbe da dire, non sarà intelligente, però fanno cose, però ne fanno tante. Ne fanno tante di robe. Cioè, l'idea di poter dire ad una macchinetta vai là e fai questa cosa qua e poi torna indietro, sarà una, non imparerà. Però una cosa che non ho detto, dici. Mi sono ricordato stamattina mentre parlavano gli altri, che potevo metterla, me ne ero dimenticato. Qualche mese fa è successo, mi pare in Libia, il primo caso di robot completamente di drone volante completamente disconnesso, che segue un bersaglio e lo uccide senza interventi umani. successo qualche mese fa, primo caso documentato di questa roba che in Libia trovano i volanti in modo semiautomatico, autonomo. Dice che anche ha sbagliato obiettivo, non lo so. Però può essere, cioè, sì, se uno applica una regola ha sbagliato, ha mancato la una regola giusta, alla fine ha ucciso quella. Che tiro, così c'è il dibattito. Sì, no. Io ho già una carrellata di osservazioni. Vai te. Sì, diciamo, il talk di Edne era una figata, un viaggio terrificante. Vorrei fare delle osservazioni perché così magari si concretizza in una maniera un po' più comprensibile. Cioè, io mi porterei a casa una serie di punti da questo talk. Uno è che AI, artificial intelligence, intelligenza artificiale, non vuol dire intelligente come lo intendiamo noi. Noi intendiamo intelligente di solito come autocosciente. Questa cosa siamo lontani eoni. Non è autocosciente. Intelligente vuol dire, in questo caso, che fa in modo automatico operazioni che noi reputiamo complicate e li fai in modo automatico. Poi il secondo sì, è che se gli dai uno scopo si autoaggiusta, l'autotuning questo lo diceva lui, però questo non è vero, cioè queste macchine, perché queste sono macchine, sono questa tecnologia non è in grado di imparare per ora. Non è in grado di imparare. Ha un obiettivo, se ha un obiettivo quantificabile, misurabile, va ad agire sull'attuatore fino a quando non arriva all'equilibrio, se l'attuatore è costruito e bilanciato giusto. Diciamo che il modo in cui viene fatta questa cosa di solito è questo. Tu hai... Cioè il contrario del sensore da una parte, il sensore misura, l'attuatore può essere un braccio, può essere la manopola, può essere la manifestazione nel mondo reale. Come agisce? Diciamo, di solito queste cose vengono usate in questo modo qui. Tu hai una scatola che ha tantissime manopole, questa è la tecnologia, e poi hai... Sono metafore, sì. Sono numeri. Sono numeri incogniti. Ok, sono numeri che vanno da 0,255? Meno 1,1 in maniera continua? Dipende. Tu devi trovare i valori. Questi, diciamo, i valori li trovi dandogli in pasto una quantità gigantesca di dati che già hanno applicate le etichette che tu vuoi che abbiano applicate. Quindi, se tu vuoi, l'esempio classico è distingui cani e gatti, do a questa scatola in pasto un sacco di cani e gatti e gli dico questo è un cane, questo è un gatto, aggiusta i numeri delle tue manopole in modo che ogni volta minimizzi l'errore nel riconoscere un cane e un gatto. Il segreto qui è che io ho già un sacco di immagini cane gatto distinte, certo, certo. Ok? Questo è il dataset. Quindi la verità è rappresentata dentro questo dataset, ok? Dopo, basta, la macchina è così. Al massimo puoi aggiustarla un pochino, ma la macchina è così. E l'intelligenza sta solo nel fatto che fa una cosa apparentemente molto complicata, cioè che se provi a scriverla sotto forma di codice sarebbe molto più complicato di così. Che tu gli dai un'immagine in pasto e lui ti dice se è un cane o un gatto. E questo è apparentemente molto complicato, ma in realtà è frutto di una quantità di lavoro nascosto che è dentro questo dataset. Quindi, lavoro umano, perché qualcuno è un umano tipicamente che ha distinto, che ha classificato questo dataset, che l'ha ordinato, che gli ha messo sopra significato. Il dataset è quello che di solito costa di più. Questa cosa di cui parlava Edne di Mechanical Turk, il turco meccanico di Amazon, è un servizio per cui ci sono delle persone, tipicamente in India, che tu gli dai una serie grossa di dati e gli dici mettimi l'etichetta giusta sopra. Questa roba, quant'era? Mi pare che il costo del lavoro di questa roba qui era per una quantità invereconda di operazioni al minuto, ma tipo guadagnavano $5 l'ora. Quindi tu paghi $100 per un giorno e c'hai un po' di persone che ti mettono etichette su dei dati, e questi dati poi, o magari paghi €1000, c'hai un sacco di dati classificati per bene, questi dati li dai in pasto a una macchina software, e questa macchina, dopo che l'hai educata con questi dati, ti sa fare in automatico delle operazioni che altrimenti sarebbero complicate da rendere automatizzabili. Quindi il concetto di intelligenza è solo che replica in maniera automatica delle cose che altrimenti sarebbero complicate da fare. Sì, però una persona costa e ha dei diritti, una macchina no. È una macchina disposta. La selezione lo dimostra. Sì. No, cioè io dico, se l'intelligenza artificiale vincerà per abbandono dell'avversario. Poi l'altro problema, scusate, questa è l'ultima cosa che voglio dire riguardo a questa AI, è che, ok, la AI non è vera intelligenza, però fa in maniera automatica delle cose complicate. Il nostro problema non è tanto questo, perché questa sarebbe, diciamo, solo una tecnologia, anche se c'ha un sacco di ripercussioni sul mercato del lavoro, sul modo in cui ci rapportiamo con l'automazione dei compiti che di solito sono stati dati a umani. Ma il problema vero è che noi gli deleghiamo delle scelte, e queste macchine non sono in grado di fare scelte morali, perché non hanno autocoscienza, non hanno coscienza di sé, non hanno coscienza del circostante, sono solo addestrate per ripetere scelte già fatte da altri. Ma noi abbiamo la tentazione, dato che sono così elaborate, di fargli fare delle scelte. Appunto, la scelta estrema è uccidere o non uccidere un bersaglio in uno scenario di guerra? E queste non sono domande astratte. Leggevo un articolo del 2015 di un filosofo inglese, lo posso ritrovare, che rispondeva, diciamo, questo è un dibattito che è partito da un po' di anni, perché la possibilità di avere macchine che fanno scelte in maniera automatica anche in scenari complicati si è paventata già da tanti anni indietro, e però tipicamente i filosofi non rispondevano sì, è giusto delegare la scelta di vita o di morte su un essere umano a una macchina. E questo filosofo invece diceva sì, è giusto, perché all'interno del framework, dell'impalcatura teoretica filosofica della guerra, questa è una scelta come un'altra. La scelta giusta è quella di minimizzazione del danno umano. Una macchina è in grado di compierla, sotto sufficienti assunzioni tecnologiche, come un umano. Quindi è giusto se una macchina riesce a minimizzare il danno umano. Questo è uno scenario terrificante, secondo me, perché la guerra è una merda di per sé. Però almeno un umano che fa scelte in guerra è in grado di rispondere coscientemente alle scelte che ha fatto, più o meno. Una macchina no. Però l'asservimento diciamo così, degli armati, di coloro che vengono costretti a morire, l'asservimento... Quello resta. Ma se l'asservito è solo una macchina? Cioè, se una nazione ha un esercito di macchine contro un esercito di uomini. Quello che Brano intende è che l'asservito si può ribellare, la macchina è più difficile perché la macchina non ha coscienza. Non ha, ecco, quindi lì andiamo su livello. Io... Beh, che è già macchina, boh. Soldato in questo senso. Una questione simile, però in contesto non prettamente bellico, è il quando responsabilità di scelte viene delegata, viene l'ha scelto la macchina, quindi è giusto. In realtà non l'ha scelto la macchina, l'ha scelto chi ha fatto il dataset con cui allenare la macchina. Quindi una scelta che è giusta perché l'ha fatta la macchina, in realtà l'ha fatta qualcuno che ha scelto i dati da mostrare alla macchina. Esatto. Questo... c'è. Diciamo che dal punto di vista della moralità dell'intelligenza artificiale, il problema non è tanto che hai tolto lavoro a qualcuno, è che hai nascosto chi fa la scelta. Cioè, nel senso, io non sarei tanto preoccupato dal fatto che hai tolto lavoro a qualcuno io non sarei tanto preoccupato dal fatto che hai tolto lavoro al soldato. Io sarei preoccupato dal fatto che hai automatizzato il soldato e che hai dato un fucile in mano a una macchina. Adesso queste sembrano tutte domande astratte, ma data la questione che veniva posta all'inizio del costo politico di portare salme in casa, soprattutto dagli Stati Uniti, ma in qualsiasi guerra, no? Quando ti riporti le salme in casa è un costo politico che devi pagare, Pensa se non devi più riportare salme in casa, se c'hai solo le salme, dove vai a fare la guerra? Vuoi venire qua? Perché? Perché? Ripeto. Dovresti ripetere la domanda, okay, perché se... ripeto la domanda. Il caso problematico più vicino a noi che si pone è una macchina a guida automatica, va fuori strada, rischia di uccidere qualcuno, deve scegliere in modo automatico chi uccidere e chi investire. Adesso rispondo, questa cosa la risolta brillantemente, tra virgolette, Tesla, si spegne un secondo prima dell'incidente, l'AI non funziona più, è responsabilità dell'umano, l'umano deve svegliarsi l'ultimo secondo e scegliere chi uccidere. Sì. Ipocrita di me. Però dovresti venire qua, dai, così evitiamo. Intanto premetto che di tecnica informatica non ne so niente, però la cosa che mi interessava moltissimo è il concetto di intelligenza, che nell'ultimo intervento giustamente sin dall'inizio è stato posto come un problema di quasi propaganda, no? Nel senso che viene usato l'intelligenza artificiale come una cosa che ci può aiutare, perché notoriamente nel senso comune l'intelligenza è qualcosa di positivo. Allora, io contesterei fortemente questo concetto di intelligenza, cioè nel senso che penso alla pedagogia hacker, no? Secondo me una delle armi, visto che parliamo anche molto di guerra oggi, sia quella proprio di contestare la narrazione dell'intelligenza. Io faccio l'insegnante e mi viene in mente un'altra delle applicazioni, oltre a quella della macchina che citava prima il compagno, ma viene in mente un'applicazione che si chiamava negli anni 70 Mastery Learning negli Stati Uniti, di un pedagogista che si chiamava Bloom. Era una macchina in cui praticamente la macchina sostituiva quasi l'insegnante, ti dava le domande, tu rispondevi e lui ti diceva giusto o sbagliato, quindi è una sorta di giudizio, no? Vero o falso. Il problema dove sta? Ad esempio, noi in Italia abbiamo l'Invalsi, che è una tecnica di valutazione, quindi per stabilire se una scolaresca è adeguatamente formata o meno, no? Però va contestata fortemente. Per fortuna, già dagli anni Ottanta ci sono varie interpretazioni divergenti dell'intelligenza. Il famosissimo saggio di Howard Gardner sulle intelligenze multiple è un buon inizio, perché ad esempio lì inizialmente si parlava di 7 intelligenze, poi sono diventate 9. Ad esempio, per fortuna una macchina non avrà mai un'intelligenza relazionale. Tu hai parlato di coscienza, è una delle possibilità dell'intelligenza, però probabilmente se qui chiediamo a tutti, siamo una trentina, probabilmente avremo una decina di definizioni diverse di intelligenza. Questa è una risorsa, cioè del fatto che le macchine e chi le progetta, perché questo poi, che qualcuno di voi lo diceva, cioè che dietro un programma c'è sempre poi un essere umano che fa l'algoritmo, quasi sempre, no? Al massimo per cose ripetitive. Quindi la scelta alla base, il dataset di cui parlavate inizialmente, c'è dietro un essere umano. Questa cosa può essere una, come dire, conoscenza che dobbiamo avere per poter contestare un'idea che la macchina sia sostituibile all'essere umano. Poi rispetto invece a tecniche ripetitive, anch'io sono dell'idea che se la macchina si sostituisce alla fatica umana, al lavoro umano, non avrei grossissimi, come dire, disgusti, disprezzi. Se poi lì diventa merito nostro, capacità nostra, quella di utilizzare il tempo libero, ovviamente con un reddito che ti permetta di vivere, per fare altro, per godersi la vita, verrebbe a dire. Quindi io mi concentrerei, chiudo, su questa idea di contestazione forte della narrazione dell'intelligenza artificiale. Non è un'intelligenza. Questo volevo dire. Sì, d'accordo. Sì, sono d'accordo anch'io. Infatti è per questo, mi scuso, che quando dicevo che tu avessi parlato di marketing, il senso era quello lì, cioè di capire, di distinguere che cosa c'è, anche il senso delle parole, ecco. Però intorno a dire che in quello che ci hai raccontato non sarà intelligenza, ma di cose ne fanno tante, ecco, abbastanza, diciamo, beh, molte più di un tempo. Volevo fare due considerazioni su tutto i tre pezzi. Uno è quello che i primi due interventi spiegano come sul terzo si aprano degli altri punti di vulnerabilità enormi. Cioè, voi vi siete limitati giustamente a parlare di, per esempio, dei luoghi di produzione con delle persone che lavorano da casa o da fuori. No, qui abbiamo delle macchine che non saranno intelligenti, ma che fanno delle operazioni ripetitive e che... E di lì l'esempio, per esempio, di questa cosa delle valvole le centrifughe di filtraggio dell'uranio iraniano, no? Che è una macchina che io vado, a cui vado a fare del danno, e così lo posso fare sul drone che vola e che spara, così lo posso fare sul robottino che fa il controllo, anche il controllo di Pompei, cioè se me ne fotte, no, volendo, sì, volendo. Quindi questo apre una... Aspetta, finisco. Come dire, crea dei punti di confine più grossi. La seconda considerazione che volevo fare è che dietro a tutto questo, eccetto alcune cose che ha detto Edne, che andrebbero, cioè che va bene, che secondo me è richiesta una concentrazione di denaro e di risorse enormi. Cioè, quando noi parliamo dei tre... sostanzialmente monopolisti del dato, perché non è che hanno l'impero i dati del mare. L'impero del mare, cioè sono quelli che hanno il ferro su cui ci sono i dati praticamente di quasi tutti i dati che vengono utilizzati in tutti i paesi. Lì è una concentrazione pazzesca, diciamo. Hanno dei bilanci che sono equivalenti a dei bilanci di stati, quindi anche là il confine qual è? Cioè, con chi ce l'ho io il confine in un interlocutore che, diciamo, non è esattamente sovranazionale, però ha una capacità di movimento e di... sono principalmente statunitensi. Rispondono agli interessi degli Stati Uniti. Rispondono agli interessi degli Stati Uniti, però hanno, diciamo, una potenza di fuoco equivalente a quella di una nazione. Ancora, ci sono delle interconnessioni, dei cavi che uniscono da un lato all'altro dell'oceano, che sono dei punti delicatissimi, non sono pochi, saranno pure anche ridondati, ma sono dei punti in cui in un'economia di questo tipo qua si concentrano, e così come ci sono dei punti di snodo, delle grosse dorsali, che sono anche quelli, diventano dei punti di interesse strategico enorme. Cioè, questo, anche questo muta un attimo lo scenario del nostro quotidiano, ecco. Insomma, lo accenta forte, basta. Volevo dire subito... volevo solo sottolineare una cosa. Via, microfono. Volevo solo sottolineare una cosa. Non so se avete colto anche da quanto raccontava, che ci sono questi tre personaggi che abbiamo citato prima, che detengono non solo il controllo dell'infrastruttura, ma anche il controllo, per esempio, del modello matematico con cui io vado a fare il machine learning, il famoso dataset di cui parlavamo. Cellulare, altro cosa ancora, abbiamo parlato prima, io mi aspettavo un sacco di domande su questo aspetto, abbiamo parlato prima, per esempio, di la capacità di avere un'intelligenza artificiale che scrive, riconosce testi e scrive testi. Immaginate che uso ne viene fatto, qual è il primo uso che ne verrà fatto? Forgiare l'opinione. Okay. Forgiare l'opinione. e il bot. Altra cosa che mi aspettavo, obiezione che mi aspettavo era, vi ho raccontato l'evoluzione del mercato attuale e cosa fanno le grandi aziende, sono costrette a lavorare in cloud, non esiste più la trust zone e quant'altro, perché sono costrette? Se io ho un potere economico e mi posso permettere di costruirmi il mio data set, perché oggi non riesco a farlo? Non vi siete posti questa domanda? Apple lo fa. Apple lo fa. Stiamo parlando anche lì di quattro personaggi, sì, che hanno il potere. 5. Perché per esempio oggi c'è la cosiddetta crisi del silicio, che non vuol dire che non c'è più silicio al mondo, semplicemente che adesso si fanno le aste. E il silicio se lo comprano in grande quantità, indovinate chi? Quattro personaggi, cinque al mondo. Però c'è un amico che lavora in AWS che dice che gli hanno dato un portatile del 2020. Sì, del 2020. Perché non gli arrivano i portatili. Ma oh, mi fido. Chissà. Vabbè, per i portatili, per i server poi li raccolgono. Però tendenzialmente oggi, se per dire oggi io voglio comprare un computer, uno switch, un access point, un computer, c'ho un tempo medio di attesa di 3-4 mesi prima che mi arrivi. Immaginate quanto rallenta tutto quanto. Altro aspetto, e chiudo, è quello che Flavio notava, ci ruba il lavoro l'intelligenza artificiale, no, ci rubano il lavoro questi qua, che comunque riportano il capitale negli Stati Uniti. GDPR, non si possono portare i dati fuori? Sapete cos'è il GDPR? Esiste una regolamentazione, forse è il termine corretto, che dice che, della comunità europea, che dice che preserva gli interessi dei cittadini europei, compresa la privacy, le informazioni di ogni cittadino. E quindi dice che questi dati devono rimanere in Europa, non possono essere portati fuori. Quindi cosa hanno fatto i nostri amici? Hanno aperto un bellissimo centro in Irlanda e lì tutti i dati finiscono. Peccato che poi dall'Irlanda si sincronizzano con gli Stati Uniti, ma questo non di cui. Non lo so. Ok, era qui. Solo il fatto che le aziende utilizzino i servizi di Google, cioè non solo le aziende, ci hanno raccontato adesso che anche i governi utilizzano questo. E soprattutto un altro concetto, new economy, avete sentito parlare di new economy, non c'è niente più falso, non c'è niente più capitalista di quello che stiamo vedendo in questo momento. No, come qua, dai. Volevo dire, a proposito delle vulnerabilità di Spotty, il nostro cane, il cane robot di Pompei, che quando è stato preso appunto dalla polizia di New York è uscito un tweet, una serie di tweet andati virali, che sono nei link nella reference, in cui spiegavano come, dato questo Spotty, come spegnerlo, come disattivarlo. Allora, prima cosa, non mettere le mani vicino ai giunti, che rompe le dita quella cosa, non è sicura, però ha dietro un bottone di spegnimento e sulla pancia una manopola che se la tiri si stacca la batteria. È difficile le bastonate. Cosa più facile, però quel Spotty almeno va a wifi, quindi si può con tipo 50-100 euro prendere un jammer wifi, quindi una cosa, un'antenna wifi, che in modo pure abbastanza legale, perché jamming è una banda legale in cui chiunque può scrivere, chiunque può mandare, manda spazzatura, rumore in zona sulle frequenze del wifi e Spotty non riceve più il segnale. Questo è il modo più sicuro per neutralizzarlo. Ovviamente la rivale di Boston Dynamics, Ghost Robotics, che fa cose belliche, ha pensato ovviamente a non mettere nessun bottone di spegnimento sul robot, immagino, né farlo andare a wifi, quindi avrà altre vulnerabilità che magari Israele riuscirà a trovare, non noi al momento. Sì, sì, la dai tanto, dai a lui. Beh, sarò brevissimo perché io non me ne intendo molto degli argomenti di cui è stato trattato, per cui non entro nei particolari, però voglio dire una mia impressione. Mi ha ricordato quando si parlava delle drone o quello che è che deve scegliere se uccidere o non uccidere, il film American Sniper, penso che tutti l'abbiano visto, dove c'era questo cecchino che doveva decidere in un secondo se uccidere un bambino o non ucciderlo, se aveva la bomba o non l'aveva, e poi lui lo uccide, questo nel film. Naturalmente c'ha tutte le diciamo, come si dice, moralmente, no? Tutte le sue contraddizioni all'interno, se ha fatto bene, se non ha fatto bene, eccetera, però insomma poi il bambino la bomba ce l'aveva veramente. Comunque la storia come finisce? Finisce che questo cecchino ritorna a casa dopo 2 o 3 volte che lui non riesce a staccarsi dalla guerra, ritorna, viene di nuovo arruolato, eccetera, eccetera, quindi era diventato un po' una specie di robot pure lui, alla fine uccide il nemico islamico puntandolo direttamente da non so quanti centinaia di metri, alla fine ritorna a casa e fa, diciamo, la moglie lo convince a stare un po' buono e si mette a educare i reduci di guerra a fare quello che faceva lui, cioè a puntare. Ebbene, la storia finisce, penso che sia una storia vera, non è inventata dal film. La storia vera, la storia finisce che viene ucciso da uno di questi reduci di guerra che a un certo punto aveva tratto delle conclusioni, diciamo, morali sul fatto, quindi io non traggo conclusioni da questo, però pongo a tutti, diciamo, la differenza fra una persona umana e un robot, come fare a riuscire, non dico, diciamo, di neutralizzare certe persone, insomma, quello è. Ma riguardo a questa questione della scelta, è anche, cioè, diciamo, la questione è sempre che stiamo delegando qualcosa a una macchina e che questa macchina, in realtà, le capacità operative di questa macchina sono frutto tipicamente delle scelte molto indirette di tante persone, appunto il dataset che è stato usato per allenare questo tipicamente rete neurale. Una delle grandi, cioè, per fortuna per adesso le contese veramente importanti sono state finora, ma questo non è un segnale definitivo, ma finora le contese sono state vinte, nel senso che i lavoratori di queste grandi aziende che sono in grado di produrre strumenti automatici di classificazione, identificazione, appunto reti neurali, questi programmi qua che fanno questo tipo di operazioni, hanno impedito fino adesso che venissero veramente impiegate in guerra questo tipo di tecnologie. Mi viene in mente un esempio, non mi pare che era Google o Microsoft, no, era Google, il Ministero della Difesa americano aveva commissionato un prodotto, una tecnologia che fosse in grado di aiutare i soldati sul campo a identificare con anticipo se un agente terzo, quindi una persona che era per strada, aveva un atteggiamento offensivo oppure no. In particolare, identificare con anticipo se queste persone avevano in mano degli dispositivi esplosivi. Quindi in pratica la cosa era, c'è una telecamera attaccata a un computer sul gippone delle truppe americane, e questa, grazie alle capacità di rilevamento a distanza e a un'intelligenza artificiale, ti diceva se a 100 metri c'era qualcuno che aveva in mano una granata che voleva far saltare questo gippone in cui c'erano le truppe americane, invece di 50 metri a cui il soldato riusciva a vedere con i suoi occhi a occhio nudo. Quindi la tecnologia era, diciamo, se la tecnologia diceva questa persona ha probabilmente ha un dispositivo esplosivo, allora i soldati su questo gippone potevano intervenire preventivamente sparandogli e ammazzandolo tipicamente. Quindi era in modo molto indiretto un incoraggiamento a un'azione offensiva, no? Il problema è che magari poi questo programma attaccato a questa telecamera si era sbagliato e non c'aveva veramente una bomba, ma c'aveva un fiasco di vino o un fiasco d'acqua questa persona, no? Un ananas. Questo tipo di tecnologie per ora è stato bloccato, nel senso, queste tecnologie magari sono in produzione ma non sono dispiegate sul campo, perché i problemi morali sono molto grossi e sono chiari, sono facilmente identificabili. Però rileviamo che la tendenza è andare in quella direzione, quindi prima o poi questi strumenti saranno sul campo di battaglia. una risposta. Io adesso mi occupo per lavoro di testo, quindi riconoscimento di testo è una cosa che non c'entra nulla con in particolare questo. Però questi modelli in generale, quando vengono allenati, i livelli di accuratezza a cui arrivano vanno dal 60 al 90%. 90 è davvero molto buono. Quindi, però, finché devi rispondere a un utente che ti chatta col bot, lo becchi 9 volte su 10 va benissimo. Devi sparare qualcuno, vuol dire che 1 su 10, se va bene, 1 su 10 lo sbagli. E questo, cioè, sono scale di numeriche grosse alla fine. Non è il 99,9, è il 90 massimo. 80 se va bene, nel senso. Accuratezza riferita a un testo cos'è? Quante volte lo becca? Quante la percentuale di volte in cui indovina? Cosa vuol dire un testo? Nel mio caso un testo, nel senso capire questa persona che sta scrivendo il titolo della tale azienda vuole farsi aggiustare il PIN, ha perso il PIN o vuole aprire un prodotto, aprire un conto. Indovinare la persona, dato un utente che chiede qualcosa, indovinare cosa sta chiedendo. Esatto, cioè il caso d'uso tipicamente è: stai su internet, c'hai una chat su un sito, l'utente scrive in questa chat, quello che risponde non è un umano, è una macchina. Il primo compito di questa macchina è capire cosa ha scritto la persona e che cosa vuole. Gli assistenti automatici. Indovinare vuol dire capire correttamente cosa la persona voleva. E prendere azioni automatiche di conseguenza. Ho fame. Vero? Io ho fame. No. Non so, io ho fame, non so voi. Se c'è qualche domanda... Continuiamo a chiacchierare tra il cibo. No, viene un articolo che si chiama Robot for the Battlefield. Il menù, le lasagne, ci sono le lasagne multistrati alla lombarda, diciamo, una stratificazione, tanti piani, ecco, dei grattacieli di lasagne, molto buone.